Allora, scusate, buonasera, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Cominciamo senza perdere tempo. Non è un'occasione rituale, ma è una riunione a quanto pare ampia, il che naturalmente ci fa piacere perché la Fondazione è la casa di tutte le sinistre che ci sono in questo Paese. Siamo particolarmente felici di discutere qui con Fabrizio sul suo testo, a partire dal suo testo. Io lo sono per varie ragioni. La prima è che Fabrizio è stato per vari anni membro del comitato scientifico di questa fondazione. Abbiamo svolto tante iniziative importanti. In secondo luogo, io ho avuto modo, quando ero giovane militante all'interno del Partito Comunista e collaboravo intensamente all'Unità Rinascita, di conoscere il rigore, la passione, la generosità, l'intelligenza delle cose di Luciano Barca. E poi, in terzo luogo, il testo di Fabrizio ci tocca tutti da vicino, e per la semplice ragione che è un'analisi seria, alla quale noi abbiamo invitato a parlare in primis, anche se non in modo esclusivo, delle compagne, permettetemi di usare questo termine, compagne dei compagni che hanno meno occasione di discutere con Fabrizio di questi temi nelle sedi in qualche modo legate al PT, che sia italiani europei, sia l'Istituto Gramsci, sia il Centro Riforma dello Stato. È un'analisi seria e insieme appassionata, anche disincantata a volte, ma appassionata, come si diceva una volta, sine ira ac studio, della situazione attuale, che tiene conto, e proprio parto dalla bella metafora che Fabrizio usa nel preambolo del suo documento, tiene conto del pieno e del vuoto insieme, il pieno e il vuoto. Questa è molto bella, questa cosa. Bisogna, un'analisi seria deve tenere conto di entrambe le cose e non del tutto vuoto, del tutto pieno. Non essere apologetica, non essere apocalittica, deve cercare di muovere dalle cose che ci sono. E lo stato delle cose è quello del vuoto, in buona parte, di una forma partito che, secondo Barca, non è adeguata alla situazione presente, alle sfide del presente. E questo vuoto, questa assenza di una forma partito adeguata, che non vuol dire che non ci siano le basi per una ricostruzione, che Fabrizio individua nel fatto che nel bene e nel male il PD è l'unico partito non personale radicato nel territorio nazionale. Ebbene, questo vuoto è l'effetto di una crisi culturale, lui dice, prima ancora che economica e politica. Una crisi che ha come suo, come dire, pendant, anche se volete, ma anche come suo orizzonte, la incompiutezza dell'Unione Europea. Ed è una crisi determinata, e qui ovviamente il cuore della tesi che tutti più o meno conoscete, perché partiamo dal presupposto che tutti voi abbiate letto il documento, da una saldatura tra una macchina dello Stato, uso i termini di Fabrizio, arcaica, autoreferenziale, aggiungiamo anche autoritaria, la macchina, lo dici anche tu, che noi abbiamo bene o male ereditato dal fascismo, in particolare dagli anni 30, e i partiti statocentrici. Il catablepismo è fondamentalmente questo, è una sorta di relazione patologica, di dipendenza reciproca tra questi due lati. E questa situazione, questo stato delle cose non è superabile, ovviamente lo sfondo dell'analisi è, dal punto di vista istituzionale, è quella di Sabino Cassese in larga parte, non è superabile né con la soluzione socialdemocratica, così come l'abbiamo, pure grande soluzione, quale l'abbiamo conosciuta nel corso del secolo scorso, e neanche però quella dello Stato minimo, quella la appunto ipotesi che Fabrizio chiama minimalista. Cioè non è sufficiente né il troppo solido, quasi cristallografico, di una politica gestita da esperti, da tecnici, da coloro che presuntivamente sanno, no? Né il troppo fluido delle opinioni che si vengono intrecciando nella rete. È una situazione che noi abbiamo ereditato, che è una situazione legata a un fenomeno che tutti conosciamo, ma che va ripreso in la crisi del partito di massa. Non c'è più il partito di massa, non ci sono più i partiti di massa così come li abbiamo conosciuti anche nella fase più gloriosa del XX secolo. E da questa crisi del partito di massa si autonomizzano filiere di comando, di capi cordata, che vanno spesso dai gruppi parlamentari alle strutture di partito, determinando una situazione di blocco anche dell'azione pubblica, Per superarla non bastano le due politiche, come si diceva prima, occorre quello che Fabrizio chiama il passo del cavallo. Passo del cavallo è sintetizzato da due espressioni, sperimentalismo democratico e mobilitazione cognitiva. Cioè siamo oggi in una società che è caratterizzata da una enorme diffusione dei saperi, che non possono essere più lasciati nello stato attuale di frammentazione, ma che vanno in qualche modo, uso un termine molto classico, vanno ricomposti. È finita la fase della decostruzione. La decostruzione è un'arma del potere. Il potere neopopulista mediatico decostruisce. Noi abbiamo il compito di ricomporre, di ricostruire. Ovviamente il partito di cui parla Barca non è il partito arroccato sullo Stato, ma non può essere neppure il partito liquido. È quello che lui chiama il partito palestra. Ma qui, diciamo, la mia prima osservazione, occorrerebbe in primis, allora, una mappatura nuova, e aggiungo nuova, dei saperi che si danno nella nostra società. E quando dico saperi non intendo soltanto noi, i saperi intellettuali, ma anche i saperi scaturiti dalle esperienze associative, scaturiti dalle lotte, scaturiti dalle esperienze di movimento. Proprio per ovviare all'altro tema del documento molto forte, la lontananza tra il partito e la società, che non è soltanto una lontananza di idee politiche, ma è una lontananza anche di linguaggio, Larghi strati della società, non soltanto giovanili, avvertono il linguaggio della politica come un linguaggio anni luce distante dalle loro esperienze, che sono spesso esperienze molto sofisticate. Quindi io penso che non si dia unicamente ipertrofia dell'io, dell'individualismo, e per l'altro verso saperi diffusi. Penso che nella nostra società si diano anche delle importanti esperienze di aggregazione comunitaria, a volte anche, diciamo, anche effimere, diciamo, movimenti, ma che vengono sempre più ruotando attorno a un tema che a mio parere non può essere eludibile, ma che va ovviamente ritematizzato, che è il tema dei beni comuni, che è il comune in rapporto al pubblico, in rapporto al privato. Cioè il partito nuovo, usiamo questo termine della buona tradizione della sinistra. Partito nuovo, il moderno principe, diciamo così, principe collettivo, e non più principe che è legato ai vertici, soltanto ai vertici, deve produrre quella distinzione tra la dimensione politica e la dimensione amministrativa e istituzionale, la dimensione dunque anche della giustizia e dell'efficienza amministrativa, che lo Stato italiano non è stato capace finora di conseguire. E io penso che senza questa distinzione, articolazione funzionale, non può darsi l'obiettivo di cui Fabrizio parla spesso nel documento, quello di una democrazia deliberativa, una democrazia che è in grado di discutere in modo argomentato una serie di temi e di questioni, ma anche al tempo stesso di giungere a delle decisioni democratiche, cioè famoso nesso di conoscenza e decisione. Cioè, mi ha colpito molto il passaggio del documento in cui Fabrizio parla della solitudine dei sindaci. Solitudine dei sindaci è molto importante, dei sindaci. E qui naturalmente si pongono una serie di problemi che poi sono, diciamo, in fondo riconducibili alle quattro fratture che Stein Rockan proprio classicamente aveva individuato come le fratture con i quali un partito politico si trova a che fare nelle situazioni di crisi. In primo luogo la frattura centro-periferia, secondo luogo, e in Italia lo sappiamo, la frattura Stato-Chiesa, l'agenzia religiosa per eccellenza che la Chiesa e le logiche statali, logiche della laicità dello Stato, la frattura città-campagna, se volete, zone urbane e zone agricole, e last but not least, la frattura capitale-lavoro. Sono queste le quattro fratture che secondo me un partito, proprio quelle che già Rockan aveva individuato, no, a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70. Occorre, e qui chiudo, un partito che abbia un radicamento sociale, che sia in grado di ricostruire il futuro e dunque anche di delineare un progetto paese. Oggi manca un progetto paese. Nessuna delle forze politiche in campo è in grado di dire chiaramente quale sia il suo progetto paese. Un partito inoltre che sia in grado, e così che almeno ho letto il documento di Fabrizio, di rimobilitare le passioni insieme al rigore e le passioni insieme, di produrre una forma di reincantamento della politica, di rendere la politica un luogo di energia simbolica, quindi anche un luogo in cui valga la pena spendere buona parte della propria vita. Ecco, io penso che questi siano appunto essenzialmente i temi. Dove vedo le difficoltà? Le difficoltà io le vedo non tanto, come dicono alcuni più o meno giovani esponenti del PD, mi riferisco in particolare al sindaco di Firenze, il conflitto tra gli immobilisti e gli innovatori. Il vero rischio nella sinistra, oggi come ieri a mio avviso, sta in quella fascia che Primo Levi aveva definito per la prima volta nella maniera più seria, lui che era chimico, la famosa zona grigia. Cioè quelli che stanno in mezzo e che dicono e non dicono e che dicendo e non dicendo, non stando né da una parte né dall'altra, di fatto bloccano qualunque dinamica di effettiva trasformazione. Noi sappiamo dalla dura esperienza del secolo scorso che dalla zona grigia vengono fuori gli orrori, e io penso che il documento di Fabrizio è un documento che tende proprio a suonare anche un campanello d'allarme proprio rispetto al persistere della zona grigia e naturalmente a darci anche, diciamo, coraggio per una, diciamo, ricomposizione delle forze della sinistra che siano appunto improntate al modello che dicevo prima, il modello che io stesso ho avuto modo in qualche modo di sperimentare anche a volte tra aspri conflitti e discussioni, un modello che è in grado di tenere insieme rigore e passione, la conoscenza, i saperi e la politica. Qui mi fermo perché la mia funzione è fondamentalmente quella di vigile urbano oggi pomeriggio, poi a metà del tragitto cederò volentieri il posto a Elena Paciotti, perché fare troppo a lungo il vigile urbano non è piacevole. Sono molte le persone previste, chiederei a tutte e a tutti di tenersi nei tempi. Intanto devo dire che il primo input di questa iniziativa è venuto da Laura Bennacchi, mi pare è stata una splendida idea. E non so se prima Lauro o Luigi vuole parlare. Allora do la parola a Luigi Ferraioli. Pregherei anche voi che ponete i problemi in modo introduttivo di tenervi entro i 12-15 minuti a testa, anche perché dal momento che non ha una organizzazione ritualizzata, io chiederei a Fabrizio non di fare le conclusioni alla fine come un tempo si faceva, ma laddove è stimolato da un'osservazione di prendere la parola dopo l'intervento, gli interventi che erano stimolati, e dir qualcosa. Bene, la parola a Luigi Ferraioli. Prendo quella. Anche questo. Ah, scusate, sì. Sì, mi pare assolutamente evidente le ragioni dell'interesse per questo documento e per questa discussione sul partito, sulla politica, che è una discussione in realtà sulla crisi radicale che sta vivendo la nostra democrazia, ancor prima dei partiti e della politica. Oggi il partito politico è l'istituzione più screditata del nostro sistema, anche a non tener conto dell'astensionismo. Dobbiamo registrare che i 2/3 dell'elettorato hanno votato per dei partiti padronali, populisti e antiparlamentari, il partito appunto azienda da un lato e il partito marchio dall'altro, entrambi di 2 miliardari autocrati, e quel che resta è il Partito Democratico, che ha avuto la capacità di generare in questi ultimi mesi, non credo di parlare soltanto a titolo personale, un generale sconcerto e disorientamento per l'incomprensibile linea politica adottata. A seguito dell'insuccesso elettorale, il Partito Democratico è stato capace, dall'oggi al domani, di ribaltare la propria linea politica, sposando il governissimo con Berlusconi, cioè facendo esattamente la cosa opposta a quella per la quale si era impegnato in campagna elettorale e fino al giorno prima, votando contro Prodi, rifiutando di votare per una personalità della statura morale e intellettuale di Rodotà, che avrebbe sicuramente assicurato una presidenza con funzione di garanzia per 7 anni, e andando all'incontro con Berlusconi, incontro peraltro che si sta manifestando attualmente anche nel progetto di una riforma costituzionale, precisamente con quello che riteniamo, almeno l'elettorato del Partito Democratico ritiene, il principale responsabile della crisi. Ho la sensazione, credo che questo sia un punto di partenza da cui non possiamo eludere, che ci troviamo di fronte ad una crisi profonda del sistema politico, del Partito Democratico, che è per così dire l'unico residuo di democrazia parlamentare nel nostro paese, e che dà l'impressione di un conflitto di interessi con il proprio elettorato. Per questo la proposta di Barca di riflettere sul partito, di riformare e rifondare il partito, per quanto per l'appunto siamo pessimisti intorno a un'ipotesi di questo genere, rappresenta il presupposto della rifondazione della politica e della stessa democrazia rappresentativa. Barca muove da una tesi assolutamente condivisibile, e cioè dal nesso tra le strutture burocratiche arcaiche dello Stato, che ancora sono quelle del vecchio modello fascista, di tipo autoritario, inefficiente, e la natura statocentrico dei partiti, sempre più lontani dalla società, che traggono legittimazione non dal loro radicamento sociale, non dalla loro rappresentatività di interessi e di volontà politiche, ma dall'essere insediati nelle istituzioni statali con tutto il seguito di clientelismi, di diciamo potere di intervento legata all'occupazione dello Stato. Quindi c'è una implicazione reciproca fra occupazione dello Stato da parte dei partiti e malgoverno da un lato e crisi dei partiti dall'altro, crisi radicale. I partiti, dobbiamo riconoscere, hanno avuto il loro momento, i loro momenti alti, in due momenti storici, quando sono nati come partiti operai e quando all'indomani della resistenza erano formati da persone che uscivano dal carcere, dall'esilio, dalla lotta partigiana, e certamente in persone di questo genere non era sospettabile un interesse personale per l'impegno politico. Da allora si è prodotta una crisi, per l'appunto un declino, che si è manifestato nell'attuale scollamento di cui parla Barca. Barca propone dunque la rottura di questo rapporto tra Stato, istituzioni e partiti. È naturalmente facile a dirsi, assai più difficile a farsi. Le indicazioni di Fabrizio Barca sono essenzialmente due. La prima ha a che fare con una tesi assolutamente avanzata, e cioè l'idea espressa con queste due formule, sperimentalismo democratico e mobilitazione cognitiva, che oggi, lo già ricordava già Giacomo Marramao, il sapere non è vero che sia concentrato in élite, come ritengono, come appartiene sia alla tradizione socialdemocratica, alla tradizione liberista, cioè esponenti politici ed esponenti poteri economici. Due modelli che non metterei assolutamente sullo stesso piano, peraltro, perché il modello liberista, al di là del carattere elitistico della gestione e direzione politica, è caratterizzata da un'esplicita subordinazione della politica all'economia, che equivale a dire una subordinazione della democrazia, delle istituzioni democratiche e parlamentari ai dettami dei mercati, lo dico naturalmente in maniera molto approssimativa, e quindi a un capovolgimento del rapporto tra politica ed economia, che fa parte del costituzionalismo profondo, non della democrazia rappresentativa, ma dello Stato moderno, che nasce come sfera eteronoma e separata e sovraordinata sulle sfere private dell'economia. Quello che stiamo vivendo, non soltanto in Italia, ma in Italia più che altrove, perché in Italia poi si aggiunge la dimensione penosa della corruzione, dei conflitti di interesse e via dicendo, e quindi una dipendenza anche personale, appunto, dagli interessi economici, è per l'appunto questo capovolgimento del rapporto tra politica ed economia che sta svuotando di ruolo le istituzioni rappresentative, e questo è anche alla base della percezione come casta, per così dire, parassitaria, che non serve a nulla, perché è chiaro che se l'economia, appunto, è assunta come sovrana, questi poteri sono considerati naturalmente incontrastabili, la loro attuazione è la tecnocrazia, e cioè una scienza ha come esecuzione la tecnica e non certamente la politica. E dunque io credo che questo sia uno dei fattori della crisi, fattori appunto non semplicemente italiani, ma che non possiamo ignorare, e un partito, per l'appunto, democratico dovrebbe quantomeno assumere come, diciamo, opzione di fondo il ribaltamento di questo rapporto. La tesi di Barca è che i saperi non sono, per l'appunto, concentrati in elite, ma sono diffusi. È una vecchia tesi, c'è un bellissimo passo di Aristotele che, quando parla della democrazia, dice: la democrazia dei molti è, diciamo, migliore delle oligarchie, perché i molti hanno più intelletto e sono come i mille piedi rispetto alle persone singole, e quindi si sommano le varie competenze e conoscenze, e il problema è, per l'appunto, quello identificato da Barca di mobilitare, di mettere insieme, mettere in comunicazione tra loro, come avveniva o come potrebbe avvenire in partiti di massa radicati socialmente. Questa pluralità di saperi e di competenze, oggi, per l'appunto, diciamo, rimosse dall'orizzonte politico, prive di rappresentanza, prive addirittura di espressione. L'altra indicazione che a me pare rappresenta il presupposto della prima, il presupposto nel senso che soltanto un partito che torni ad essere radicato nella società e ad avere una capacità di attrazione, avere la capacità di far sì che persone come noi ci si iscrivano sostanzialmente, cioè li assumano come luoghi di incontro e di discussione. Non so quante persone qui siano iscritte ai partiti, ma certamente io vedo tra gli studenti, l'iscrizione ai partiti ormai è crollata. Questa capacità di attrazione si realizza attraverso, Barca la indica come separazione tra Stato e partiti. Ebbene, questa separazione come si realizza? La possiamo lasciare all'autodeterminazione dei partiti? In 65 anni i partiti con la loro autonomia statutaria non hanno offerto ai loro iscritti neanche le garanzie che le normali associazioni riconosciute, le società per azioni, riconoscono ai loro soci. Quindi io credo che dobbiamo prendere atto che oggi una separazione tra Stato e partiti che escluda l'interesse personale dei dirigenti di partito ad essere eletti, a fare carriera nell'istituzione, si può realizzare con la vecchia formula di Montesquieu, la separazione dei poteri. La separazione dei poteri significa innanzitutto separazione fra poteri sociali. Il partito dovrebbe tornare ad essere, e credo che questa sia una tesi di Barca molto importante, un organo della società che fa i programmi, fa i congressi, fa le candidature, chiama a rispondere i rappresentanti. Perché oggi questa identificazione fra partiti, dirigenti e esponenti, diciamo, governativi e ruoli istituzionali, esclude la mediazione rappresentativa. Di fronte a chi rispondono se non a se stessi, in mancanza di questa alterità tra rappresentanti e rappresentati? Una volta probabilmente nei partiti di massa c'era questa alterità fra il partito radicato socialmente e le istituzioni. Oggi questa alterità è venuta meno, e con questa alterità è venuta meno anche la mediazione rappresentativa e la responsabilità degli eletti. E dunque io credo che una legge sui partiti trova abbastanza clamoroso il fatto che quando è stata proposta una legge sui partiti c'è stata una reazione di massa, come se si volesse mettere fuori legge il movimento. Si vuole mettere fuori legge anche un movimento che è un partito marchio e che si caratterizza unicamente per la sua demagogia. Cioè, è possibile che possa ricevere finanziamenti o addirittura partecipare alle elezioni forze politiche che si caratterizzano per un'aperta negazione del divieto di mandato imperativo, che non è un'invenzione della casta, è la definizione della democrazia rappresentativa? Ebbene, una legge sui partiti deve garantire, perché sempre nella nostra tradizione i diritti politici non richiedono garanzie, sono affidati all'autonomia, all'autodeterminazione. Non è vero. I diritti politici non sono stati garantiti e proprio per questo sta crollando la democrazia politica. I diritti politici richiedono garanzie non meno dei diritti di libertà e dei diritti sociali, e cioè richiedono limiti, vincoli, regole, e cioè statuti che impongono ai partiti di fare i loro congressi, le loro assemblee, la partecipazione di base, che impongono appunto le forme democratiche di formazione. Quindi io credo che, e questa è una domanda che ponga a Barca, la tua proposta di separazione si fonda su una legge sui partiti, sull'eteronomia, perché si tratta bene o male di un'attuazione dell'articolo 49, sono gli strumenti attraverso cui si forma la volontà democratica degli elettori. Si richiede una legge con separazione fra, io credo che un segretario che va in Parlamento, dirigente, dovrebbero dimettersi da queste cariche, così favorendo anche il ricambio politico non traumatico, perché naturalmente i nuovi dirigenti li chiameranno a rispondere. E altra cosa, perché è un'altra questione di cui si parla, la separazione fra poteri politici e poteri economici, che quel che riguarda i partiti ha a che fare anche con il finanziamento. Io credo che, ma voglio sentire qui l'opinione di Barca, che contro la demagogia qualunquista ormai dominante dovrebbe essere vietato non il finanziamento pubblico, ma il finanziamento privato, oltre una certa cifra. Se non vogliamo che quando andiamo a votare, anziché eleggere i candidati ai partiti, votiamo per i loro finanziatori, se non vogliamo che le elezioni vengano vinte dai finanziatori, dobbiamo escludere che ci possano essere finanziamenti da parte di persone giuridiche che evidentemente non sono motivate da motivi ideali. Una società per azione, un ente pubblico che finanzia un partito, evidentemente lo fa nell'aspettativa di un beneficio, c'è dietro una corruzione sostanzialmente. E dobbiamo porre dei tetti al finanziamento privato, appunto, non più dello stipendio di un operaio all'anno, per evitare che si possa comprare un partito. E allora io credo che un altro segno della demagogia qualunquista nel nostro paese è questa campagna contro il finanziamento, che è assolutamente fondata, se diretta, contro il finanziamento privato. E questo dobbiamo dirlo. Il finanziamento privato, quando non è un finanziamento degli iscritti e dei simpatizzanti, motivato da motivi ideali, è un finanziamento che inquina e corrompe la vita politica. Ultima questione, che ha a che fare con il tema più dolente, quello delle riforme costituzionali. È possibile che in un paese che ha avuto Mussolini, Berlusconi, Grillo, dalla tragedia alla farsa e da una farsa all'altra, noi ci incamminiamo verso un sistema presidenziale in cui verremmo probabilmente a correre il rischio di avere presidenti di questa natura? Cioè il presidenzialismo, sul piano teorico io sono convinto che l'unica forma di la forma, diciamo, più perfezionata di democrazia è quella parlamentare. I sistemi presidenziali hanno ciascuno una storia diversa, come c'era negli Stati Uniti, il presidente era una specie di supplente del re. La democrazia è rappresentativa, è quella parlamentare. Ma in un paese come l'Italia, con il passato che ha avuto e con il presente che ha, è possibile che ci si incammini sulla strada assolutamente irresponsabile? Ed anche questo è un elemento di scollamento, di conflitto di interessi. Che senso ha questo andare a fare la riforma costituzionale con il rischio, perché io spero che su questo si terrà duro, di una involuzione in senso presidenzialista, quando l'interlocutore è lo stesso leader politico che assumiamo come responsabile di questa crisi? Quindi io credo, concludendo, che la discussione sul partito diventa pregiudiziale, e in questo senso dobbiamo essere grati a Fabrizio Barca per averla avviata, identificando questi due elementi: la necessità di una democratizzazione interna e la separazione fra partito e Stato, fra partito e istituzioni, in grado di ristabilire la mediazione rappresentativa e la responsabilità degli eletti. E naturalmente questo deve comportare, ovviamente, da parte di chi ai partiti non è iscritto, una mobilitazione in difesa non tanto del Partito Democratico, di quello che avremmo voluto che fosse, quanto dei fondamenti e dei presupposti stessi della democrazia rappresentativa, che oggi, dobbiamo essere consapevoli, richiede garanzie costituzionali. Richiede, quindi, sì, c'è bisogno di leggi di attuazione dei diritti politici, oltre che di un rafforzamento del 138, ma è esattamente l'opposto di quello che si sta facendo, che comunque si rischia di fare, e credo che sotto questo aspetto la battaglia di Fabrizio Barca abbia una grande importanza. Bene, grazie a Luigi Ferraioli. Laura Pennacchi, Laura. Volendo essere molto breve per non sottrarre spazio agli altri che hanno programmato di dirci qualcosa, fornirò solo degli spunti e quindi sarò forse un po' schematica, sono più suggestioni. A partire dal ribadimento del fatto che l'impianto della memoria di Fabrizio, che Giacomo Marramao e Luigi Ferraioli ci hanno riassunto, gravitante attorno a questi concetti di mobilitazione cognitiva, di sperimentalismo democratico, democrazia deliberativa, io sono molto adesiva, trovo questa prospettiva vincente, affascinante, bisogna lavorarci dentro perché è una prospettiva molto difficile, non è che basta dire queste belle parole anche se le parole contano e conta moltissimo, come diceva Luigi, conta moltissimo che siano parole abbastanza inconsuete, anzi del tutto inconsuete nel lessico del politichese tradizionale a cui siamo abituati. Non dovrebbe sfuggire che c'è nel discorso di Fabrizio una stretta interrelazione tra una riflessione che appare prevalentemente di metodo, ma che non è solo di metodo, e una riflessione in avanti sui contenuti, sulle questioni di merito, sulle grandi finalità che anche devono animare la ridefinizione della prospettiva di un partito di sinistra. Dice con grande nettezza Fabrizio, il Partito Democratico, partito di sinistra, con questo intervenendo implicitamente su un equivoco di fondo che non è mai stato adeguatamente discusso e meditato, che ha guidato la nascita e la formazione del Partito Democratico, la presupposizione cioè che in realtà questo partito dovesse essere un partito moderato, che un partito che cercasse alimento elettorale anche tra i moderati dovesse esso stesso essere un partito moderato. Quindi qui c'è un grande equivoco che va discusso, che speriamo nella discussione congressuale che il Partito Democratico si appresta a fare venga finalmente fortemente alla luce. La prospettiva di Fabrizio è un partito collocato saldamente a sinistra. I suggerimenti e le riflessioni che a me vengono da fare sono proprio per stimolare in avanti e per cominciare a dare un contributo. In fondo questo lavoro che Fabrizio fa è un lavoro che consegna a noi, a tutti quelli che sono interessati a questa prospettiva che Fabrizio indica, devono concorrere. Ed è questo che è intrinsecamente un fatto di metodo e di contenuto. La definizione dei quadri complessivi deve venire da tutti quelli che si sentono interessati a questo ragionamento. Io le osservazioni che faccio sono su due aspetti un po' di fondo. Questa riflessione che sia Giacomo che Luigi ci hanno già brevemente riassunto, un partito che rompa con lo statocentrismo e lo statalismo, che salda uno stato burocratico e arcaico con un'autoreferenzialità del partito stesso, è molto importante, io la condivido. L'avvertenza che farei ricalca un po' l'avvertenza che faceva anche Luigi. Attenzione che nella critica giusta allo statalismo non perdiamo di vista, intanto che nel socialismo ci sono tante versioni, non c'è stata solo la versione socialdemocratica di affermazione di un certo statalismo, di marca weberiana, potremmo quasi dire socialdemocratica tedesca, ma ci sono state varie altre componenti di socialismo, lo dico qui con orgoglio, essendo qui nella casa delle sinistre, di tutte le sinistre, che è stata fondata da Lelio Basso, grande socialista, libertario e certo non statalista. E quindi ci sono versioni del socialismo, penso a quelle dei paesi scandinavi, le versioni alla Myrdal, le versioni, dirò meglio, dei coniugi Myrdal, perché sono stati marito e moglie che hanno pensato delle strutture, per esempio, di politiche fiscali, certamente governative e statali e pubbliche, ma molto basate sul rispetto dell'individuo, sul riconoscimento dell'individualità, quindi molto importanti. Ma poi l'altra attenzione che suggerisco di avere è che, come ricordava Luigi, non dobbiamo mai dimenticare che noi siamo tuttora immersi in un neoliberismo che, avendo mostrato tutta la sua fragilità, la sua fallacia teorica, è però imperante. E il nemico di fondo dello statalismo, del neoliberismo, è lo Stato. Non si tratta solo di stato minimo, questo lo dico anche rivolta alle notazioni che faceva Giacomo, che vanno un po' nell'altro senso. Non c'è solo lo stato minimo. Il neoliberismo ha perseguito un'idea di starving the beast, affama la bestia, e la bestia sono i governi, gli stati, le istituzioni pubbliche, la rimessa in discussione radicale della mediazione istituzionale, dell'idea stessa del terzo che media la relazione, nella mitizzazione di una immediatezza della società civile che noi sappiamo che assolutamente non si dà. La società civile è per definizione, da Hobbes in poi, un'articolazione, una costruzione sociale, non si dà immediatamente, è una costruzione sociale con quell'elemento di artificialità profondissimo che tutto il pensiero occidentale ha messo in rilievo analizzando i processi politici e la formazione degli stati. L'altra notazione che faccio, e quindi avrei già finito tenendomi nel proposito di non essere troppo lunga, io penso che, avendo insistito all'inizio sul suggerirvi di non fermarvi all'impressione che possa essere un discorso solo di metodo, ma è un discorso che contiene tantissimi aspetti già di contenuto, e che, contenendo tantissimi aspetti già di contenuto, fa una scelta, il discorso di Fabrizio, verso un lavoro alla frontiera, all'incrocio delle grandi tradizioni del pensiero democratico moderno e delle grandi eterodossie del pensiero democratico moderno, con ciò dimostrando che l'aggettivo democratico ha un significato profondissimo che va sviscerato e ancora di enorme attualità. E con ciò anche, lo dico adesso questo un po' maliziosamente, guardando alle citazioni che Fabrizio fa, che sono le citazioni dei miei maestri, dei miei idoli, da Amartya Sen ad Albert Hirschman, non è privo di significato che non ci siano citazioni di Benedetto Croce, Luigi Einaudi e varie altre. vedo che la mia malizia... Ma io ho parlato del pensiero democratico moderno, ma il riferimento a Luigi Einaudi scoprirete nei prossimi giorni perché è così malizioso. Se sono vere le citazioni, le anticipazioni che ha fatto Eugenio Scalfari domenica su discorsi che verranno fatti alla Repubblica delle Idee, in cui si insisterà tantissimo sul... Sono anni che si parla di Luigi Einaudi, non è che dobbiamo aspettare domenica. No, ma appunto, quindi non è privo di significato. Appunto, quindi non è quindi la mia malizia era abbastanza scoperta. Però io penso che sia comunque importante, fin da questa fase, che è una fase già in atto di sperimentazione dello sperimentalismo democratico che Fabrizio ci propone, anche fare uno sforzo in più nella definizione di un'offerta, di un frame, proprio pensando alla carica cognitiva che i frame hanno, visto che noi parliamo di mobilitazione cognitiva. Un frame offre appunto un quadro cognitivo, e offrendo un quadro cognitivo offre anche un quadro valoriale che ti consente di fare appello alle passioni e ti consente di mostrare il legame tra passioni e razionalità. Noi perseguiamo un'idea diversa di razionalità, che non è la razionalità strumentale del paradigma dell'homo economicus che anche Fabrizio evidentemente critica. Quindi molti elementi che sono già contenuti nella memoria, e soprattutto l'addendum sulla Costituzione finale, che a me pare eccellente, il riferimento implicito che c'è al modello dello sviluppo umano di Amartya Sen, la critica dell'austerità, un'analisi della crisi appena in embrione, la critica dell'austerità, impliciti riferimenti a Keynes che sono molto importanti e che ci sono. Tutto questo va, secondo me, declinato nella consapevolezza che siamo di fronte alla necessità di rovesciare dei paradigmi, noi che parliamo di mobilitazione cognitiva dobbiamo avere la consapevolezza che siamo di fronte alla necessità di rovesciare dei paradigmi, se è vero che stiamo vivendo una fase analoga a quella che Karl Polanyi descrisse nei termini della great transformation, della grande trasformazione. Karl Polanyi, è uscito ora questo libro di inediti che noi in Fondazione, tanto per sottolineare la grande capacità della Fondazione di avere orecchie e occhi spalancati, presentiamo all'inizio di luglio. Altrimenti, se non si fa questa chiarificazione, se non si comincia subito questa chiarificazione, il discorso sulle preferenze, che pure compare evidentemente nella riflessione di Fabrizio, Fabrizio dice ripetutamente, andranno definite le preferenze, bisognerà rispettare le preferenze degli elettori e così via, rischia, lasciato così, di farci tornare al mondo economicistico del soggetto autointeressato, egoista, acquisitivo, criticato proprio da Amartya Sen. Nella celebre critica che Amartya Sen fa già negli anni 70 al rational fool, lo sciocco razionale guidato solo dalle proprie preferenze autointeressate, Sen compie già un lavoro enormemente anticipatore sulle metapreferenze, sulla necessità di riflettere sulla formazione endogena delle preferenze, sulla possibilità della manipolazione delle preferenze, che nei processi di usura e erosione della democrazia che Luigi Ferraioli ci ricordava prima sono ancor più forti, rispetto alle quali il concetto di metapreferenze e di metaordinamento, ordinamento di ordinamenti di preferenze ci aiuta moltissimo, il che però ci riporta alla necessità di pronunziarci e di sviluppare in avanti un discorso sulle finalità, sugli ideali, sui sentimenti morali che danno corpo a una ragionevolezza diversa per la quale possiamo, con la quale possiamo animare la nostra battaglia, la nostra lotta, perché questo poi un partito comunque ridefinito deve fare per un modello di società e di vita diverso. Grazie. Bene, grazie a Laura Pennacchi. Io qui Angiolina Arru, che è prevista, io seguo l'ordine alfabetico perché mi pare, essendo, come dire, legato alla sorte, al destino del nome, è quello che pone meno problemi. Ha segnato. Vieni qua Angiolina, lasciamoci. Aspetta che bevo, Ecco, una raccomandazione, chiunque interviene adesso 5-6 minuti al massimo, perché altrimenti non riusciamo a interagire. Okay. Prego? Dopo Angiolina Fabrizio, magari. No, dopo De Ioanna. Insomma, ci siamo già accordati due interventi. Si richiede. No, forse Fabrizio lo volevano sentire dopo loro. No, abbiamo... Vediamo un attimo. Vabbè. Trovato un punto di... Allora, 5 minuti. Allora, no, io ho apprezzato moltissimo questo documento. Ho apprezzato soprattutto l'innovazione del linguaggio e dell'approccio alla cultura politica. È un linguaggio molto attento ai sentimenti di tutti i tipi. Un linguaggio attento alle emozioni, parla di un rancore, per esempio, di un rancore verso i partiti, di chi ottiene favori dai partiti. Descrive con molto astio la divisione manichea dentro la cultura politica si è introdotta, si sta introducendo, la divisione manichea per età, per culture, per generazioni. Come ha detto anche Laura, ci ricoinvolge su letture che sono state alla base di tutta la nostra formazione della fine del Novecento, Hirschman, Sen, di letture nuove, anche della politologia più italiana, Ignazzi, il lavoro fatto alla Fondazione Basso con parole chiave. spiega con molta chiarezza che cosa succede a un paese come il nostro che non ha avuto un'esperienza socialdemocratica. Secondo me mi sembra una cosa molto interessante l'analisi anche di una storia contemporanea chiara. Chi non ha avuto una cultura e un'esperienza socialdemocratica non ha avuto una profonda cultura di massa, non ha avuto un sicuro concetto della dignità del lavoro. Era un diffusore di cultura di massa lo Stato socialdemocratico. E poi parla subito dopo delle aberrazioni di questo stato minimo del liberalismo. E anche la è così chiara le prime, penso che sia un documento che deve veramente forse essere, come credo sia, letto nei circoli, nei gruppi, tra gli studiosi. E le proposte che lui fa, questo di cui si è parlato, la mobilitazione cognitiva, che deve superare la democrazia deliberativa e questa sorta di sperimentalismo nella discussione, di sperimentalismo nell'azione, nelle decisioni, sono innovazioni che presuppongono però un forte concetto di fondo, e cioè che il confronto tra le idee, la mobilitazione, si fa con la faccia a faccia. Questo lo ridice spesso. Mi sembra che sia non una critica della rete, mi sembra che sia la possibilità che la rete ci arricchisca. E poi dice una cosa che in fondo, penso che lo sappia, visto che siamo iscritti allo stesso partito, e in fondo ripete un concetto di fondo di un partito di sinistra che esiste nel primo articolo dello statuto di questo Partito Democratico, che deve essere un partito non di iscritti, ma di elettori della sinistra. Il che vuol dire protagonisti differentissimi, sicuramente non così legati ai leader o a tutto il ragionamento dello Stato arcaico. E in tutti questi passaggi, vabbè, dopo vediamo. Il ragionamento di Fabrizio è molto incalzante e indica sempre le difficoltà rispetto alle sue proposte. È molto difficile separare due fratelli siamesi, è evidente, e lui di questo parla. Non è affatto difficile, se lo si volesse. È difficile, lo dicono i chirurghi, che è difficile separare due fratelli siamesi, è un'operazione molto delicata, però appunto lo dice che bisogna separarli. Doloroso, però bisogna farlo, è un presupposto, non sempre. I fratelli siamesi, a me mi è sembrato molto interessante invece questo passaggio, dopo ne parleremo. In tutto questo documento, di bel documento, forse però manca una spiegazione un pochino più profonda nel tempo, dico, un pochino più ampia, un po' più ampia, più profonda nel tempo, di alcune difficoltà che Fabrizio vede, soprattutto del perché si concentra il potere in mano di pochi e del perché la cultura è fatta qui di frammenti, che è difficile certo con i frammenti mobilitare e far circolare. Il presupposto di tutto questo documento è la fine, in un certo senso, di dicotomie profonde. La sua visione antimanichea attraversa tutto la sua riflessione. È la fine delle visioni dicotomiche nella cultura politica soprattutto. E lo sperimentalismo è uno strumento per porre fine, in un certo senso, a queste dicotomie. Però qua c'è un grosso problema, perché quando nelle dicotomie ci si trova di fronte a quello che Fabrizio chiama presunte verità valoriali, allora le dicotomie sembrano permanere. E qua a me sembra che proprio per vedere, per capire il blocco che una dicotomia può comportare nella mobilitazione cognitiva, nella circolazione nelle idee, nello sperimentalismo, forse è necessario aggiungere a queste letture che ci propone, che continuamente attraversano la cultura di questo documento, forse anche un altro tipo di analisi culturale, che è quella dell'analisi storica. Io penso che, per esempio, mi è venuto in mente che accanto a questo bellissimo libro, a cui è molto legato Fabrizio, di Sen, dell'idea di giustizia, questo libro più recente di Sen, ho pensato subito all'altra lettura di un altro libro che io metterei qua nelle citazioni, che forse ridiscuterei, che forse rileggerei, che è un libro di uno storico, che è il libro di Paolo Prodi, che non parla dell'idea di giustizia, ma la storia della giustizia. Una storia della giustizia, dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto. Evidente che la simpatia verso il dualismo moderno in Prodi è evidente già da questo titolo. Perché il passaggio c'è stato dal dualismo moderno tra una coscienza e il diritto, questo Luigi ci potrà, potremmo anche discutere, ad un unico sistema normativo del diritto contemporaneo, pervasivo, invasivo, nelle regole, nelle norme, nei comportamenti, nelle nostre scelte individuali. Fabrizio parla moltissimo della ricchezza dell'io, dell'enfasi sull'io, delle scelte possibili, della ricchezza che è venuta tutta dagli anni 60. Questo documento presuppone una cultura in Italia, nonostante l'assenza della cultura di massa, della socialdemocrazia, una cultura vivacissima, una cultura diffusa. E invece, se quando noi parliamo da un dualismo moderno ad una cultura che pervade, una cultura giuridica che pervade tutte le scelte con agganci a sfere che non ci appartengono, non appartengono a tutti, con agganci a sfere, a logiche di cui non facciamo parte molto spesso, e allora a questo punto tutta la discussione del pluralismo è bloccata. È bloccata perché c'è una dicotomia che deve restare fra la scienza e tra la coscienza e la politica. Può restare una dicotomia, il dualismo giuridico può restare, mentre se non resta, allora non possiamo fare scelte individuali, ed è questa la cosa che più ha bloccato e ha legittimato anche l'alternanza dei poteri, la divisione dei poteri, le scelte familiari bloccate. Tutti i paesi occidentali si sono dovuti confrontare con un fine del dualismo moderno e con un unico strumento normativo, che è dove il peccato è il reato e dove la norma include e involve tutto. Tutti i paesi occidentali si sono liberati, noi non ci siamo liberati. Io pongo questo grande problema: quanto è difficile mobilitarci e circolare fino a che un partito della sinistra non affronta e non richiede una volta il positivo e la parte positiva e la parte ottimistica di alcune dicotomie, che non devono integrarsi ma devono coesistere, come è coesistito lo Stato moderno quando ha composto i poteri periferici. Non li ha integrati, non li ha omologati. Questa è una grande richiesta che noi al partito dobbiamo fare, che lo facciamo naturalmente, che è quello di affrontare problemi, e su questo io sono un po' molto più preoccupata, e Fabrizio che ha sfiorato questi problemi forse li deve ancora più problematizzare. Bene, grazie Angiolina. E Paolo De Ioanna. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori per la possibilità che mi viene data di svolgere qualche riflessione in un ambiente particolarmente attento e critico. Suppongo che l'invito di Laura e degli amici nasca da alcune riflessioni che ho fatto negli ultimi anni sulla distruzione delle politiche pubbliche in Italia, e forse in questo senso alcune esperienze anche professionali e di vita mi consentono di comprendere bene il senso della riflessione di Fabrizio Barca. Tuttavia vorrei cogliere questa occasione rapidamente per svolgere alcune questioni, peraltro già toccate da chi mi ha preceduto, che sono a monte, e poi alla fine fare un breve flash anche sulla questione delle politiche pubbliche e sulla finanza pubblica. Ora, io credo che è molto importante questo framework cognitivo interessante, affascinante, che Fabrizio ci propone nel suo testo, che va letto e che è un salto di qualità rispetto al dibattito. E tuttavia a me sembra che la questione cruciale in Europa in questo momento, sulla quale stanno discutendo le socialdemocrazie, l'SPD con soluzioni in parte innovative, in parte un ritorno al passato, i francesi, in qualche modo anche noi, è perché la politica è commissariata. Cioè, il problema di fondo in Europa è che la politica, diciamo, ha perso il senso di quel rapporto, diciamo, quel confine rapporto tra forme, istituti e scelte della democrazia e scelte e tendenze dell'economia. Non voglio darmi arie, come dire, di come dire, filosofo, ma tuttavia, diciamo, gli ultimi anni, e Fabrizio, venendo dalla Banca d'Italia, conosce bene questa linea di pensiero, si è sviluppata in una parte della scienza economica l'idea che l'economia è una scienza dura, è una scienza della natura. Quindi, al di là poi delle interpretazioni socialdemocratiche, c'è proprio un nucleo, non so come dire, epistemologico, per cui si deve fare così, non si può fare diversamente. Ora, io penso che qui c'è un errore di fondo che gli economisti, che hanno varie scuole, varie anime, vari orientamenti, dovrebbero aiutarci a sconfiggere. Perché io credo invece che le cose che sono state dette, le citazioni a Amartya Sen, eccetera, ma soprattutto in Europa, perché noi siamo in Europa e dobbiamo, la nostra crisi, il commissariamento della politica nasce in Europa in questo momento, dobbiamo fare i conti bene su che cosa è andato bene, che cosa è andato storto in questi 10 anni. Degli ultimi anni, dall'introduzione dell'euro fino ad oggi, perché dobbiamo ammettere in modo, come dire, franco, autocritico, io ho dato il mio piccolissimo granello di sabbia per i successi e i fallimenti, piccolissimo, qualcosa è andato storto. Che cosa è andato storto? È andato storto il fatto che noi abbiamo perduto il senso di quel confine tra politiche monetarie e politiche fiscali. Silvano Andriani ha scritto cose molto lucide su questo tema, che era chiarissimo fin dall'inizio. Io non sono un economista, sto scrivendo alcune cose. François Perroux, che era un economista che Fabrizio conosce perfettamente, è stato tra i padri del mercato comune europeo, a proposito dell'utilizzo di tecniche statistiche in economia, metteva molto in guardia il processo che si andava ad iniziare, perché diceva: i dati statistici servono a fondare l'economia come tutte le scienze dell'uomo, però se poi diventano una gabbia per cui il passato condiziona il futuro è figlio di un passato che non cresce, abbiamo fatto il fiscal compact. Ed io noto con molta amarezza, perché la considero una mia piccola sconfitta, probabilmente essendo un fatto personale conta pochissimo, questa vicenda dell'articolo 81, la considero, dicevo poco fa un senatore, una sconfitta gravissima. Ma non perché non si possa discutere di queste cose, io mi sono permesso nell'agosto del 2011 di dire: attenzione, maneggiate con cura questa roba, perché vi infilate in una roba che, da cui non uscite più. Per cui noi ci troviamo nella spiacevole condizione per cui applichiamo delle regole di dubbio fondamento teorico. Gli stessi interpreti delle regole, i regolamenti sono perlomeno 5 o 6 in materia, se li mettete intorno a un tavolo e li fate discutere, mi è capitato di recente, a parte i linguaggi e le lingue differenti, non la pensano allo stesso modo. Per cui non è chiarissimo se noi dobbiamo fare lo 0,5 o lo 0. Perché è scritto in maniera grammaticata. Allora, non mi voglio dare aria, diciamo, da esperto di queste cose, anche se forse un po' le conosco. Però voglio dire, qui c'è una sconfitta. Allora, rispetto, e vado verso la conclusione, a tutta questa vicenda, a cui ci richiama Fabrizio, quindi sperimentazione democratica, c'è questo processo cognitivo, le scienze cognitive, l'economia, il diritto sempre di più affondano nei processi della mente. Va benissimo, io penso che noi dobbiamo affrontare queste cose con grande senso del presente e dei problemi dell'individuo. Tuttavia, se non ci rendiamo conto che in Europa, in questo momento, un partito di sinistra, sia esso socialdemocratico, lasciamo stare, se non recupera con precisione il problema della regolazione, distribuzione e rilancio del ciclo economico, in chiave più o meno keynesiano, ci ragioniamo, non va da nessuna parte. Perché, guardate, la democrazia, secondo me, non secondo me, ricordo qui, è venuto Balibar 2 anni fa, ha scritto un bellissimo libro sulle condizioni minime per la democrazia. La democrazia è un manufatto storico, lo diceva bene Laura. Anche il mercato è un manufatto storico. Ma sia il mercato che la democrazia hanno bisogno di speranza, di lavoro, di fiducia. Se si creano diseguaglianze enormi nella classe media, se la speranza viene meno, noi possiamo fare molti discorsi. Non c'è nessuna critica psicocognitiva, diciamo, sul nostro orizzonte individuale, ma se non si crea il lavoro e non si crea la speranza, è la democrazia che entra in crisi. Allora io credo che su queste questioni dell'autonomia del politico, della democrazia, forse da qui dobbiamo partire in Italia ed in Europa per chiederci come possiamo giocare in Europa una partita autonoma, critica, non antagonista. Non è che possiamo fare lo sviluppo col debito, questo mi pare abbastanza ovvio e credo che nessuna persona di buon senso lo pensi, ma dobbiamo anche partecipare alla pari alla costruzione e al superamento di questo legno storto dell'Europa in questo momento, perché in questo momento, come dice Martin Wolf, noi siamo su una bicicletta, o pedaliamo e andiamo avanti, ci vorranno dei mesi, degli anni, e costruiamo il nucleo di una cittadinanza europea con i livelli di democrazia, cioè, o cadiamo, e allora cadiamo, poi ci si riprende sempre, nella vita come nell'economia, nulla è, diciamo, si riparte sempre. Dunque, la faccio breve, io trovo abbastanza singolare che la dichiarazione più politica sulla situazione europea l'ha fatta il governatore della Banca Centrale Europea, Wall Street Journal, nell'ottobre-novembre dell'anno scorso, dicendo lo Stato sociale europeo è finito. Ora, è abbastanza singolare che il governatore della Banca Centrale fa dichiarazioni politiche, ma non ha gli strumenti della politica monetaria. La Banca d'Italia ci spiega che abbiamo fallito per 25 anni, i politici hanno sbagliato tutto. Può darsi. Il governatore della Banca Centrale Americana serve con la politica monetaria il governo americano, con politiche completamente non convenzionali. Lo stesso vale per il Giappone, lo stesso vale addirittura per l'Inghilterra. Qualcosa sta accadendo. Allora va benissimo, facciamo l'autocritica delle scelte non fatte. Abbiamo mancato 10 anni di tassi bassi, ci spiegano in tutti i modi, va bene. Però bisogna che la politica in Italia e in Europa riassuma una funzione centrale. Io credo che un partito socialista, democratico, nelle varie espressioni, abbia questa funzione oggi in Europa. C'è un'opinione pubblica europea, c'è una discussione diciamo, aperta da fare. Credo, concludendo, ma forse un po' non è molto sofisticato il mio discorso, ma io trovo che, come diceva Tony Hood, che è uno scrittore che amo molto, vediamo ciò che è morto e ciò che è vivo della socialdemocrazia. Ci sono molte cose vive della socialdemocrazia e mi sembra che il ragionamento che l'SPD sta cercando di fare oggi, da una parte allargando la base, questa specie di alleanza dei progressisti, e dall'altra riprendendo tutto l'armamento, aggiornando l'armamentario del ciclo, regolazione, sviluppo, distribuzione, di un capitalismo non al servizio del capitalismo, ma per correggere e capire l'esperienza di questi 20 anni, forse è una linea che può avere, come dire, un futuro. Un'ultima battuta, ma non vi affliggo di più. Noi siamo, come dice bene, senza politiche pubbliche. Noi siamo vittima da 10 anni, io l'ho scritto, l'ho detto, ma insomma non conta poco. di un federalismo melenso, cioè senza basi fiscali. Siamo in un angolo, in una specie di cul-de-sac, dove adesso i teorici del federalismo cercano di uscire con delle autocritiche un po' bislacche. Ma abbiamo portato il paese in una zona priva di senso, perché io sfido qualsiasi imprenditore, qualsiasi cittadino a capire perché paga l'IRPEF, l'IRAP, la sanità. È una roba priva di senso. E abbiamo fatto 10 anni di tagli lineari dove non abbiamo molto corretto i trend indesiderati, ma soprattutto abbiamo distrutto le politiche pubbliche. E allora qui, forse qui bisognerebbe fare quel lavoro di valorizzazione, diciamo, di quanto c'è di positivo, di buono nella macchina pubblica centrale e locale, e rilanciarla verso un'idea di presenza non statalista, e qui sono assolutamente d'accordo con Fabrizio, ma di una presenza del pubblico che è essenziale, è ovvio, per dare sostanza ai diritti di cittadinanza. Grazie. Bene, grazie Paolo De Ioanna. Ora un primo intervento di Fabrizio Barca. Intanto vi ringrazio molto. Entro subito nel vivo. Io credo che l'intervento ultimo sia e meriti di essere riannodato a quelli precedenti, perché sembrano muoversi in realtà su due piani diversi. E non lo sono, anche se ci sono due piani diversi. Quali sono i due piani diversi? La crisi dei partiti, la loro non capacità di essere organizzazioni della società è un fatto generale di tutto il mondo capitalistico. Lo è in modo particolarmente serio per le sue caratteristiche dell'Europa, lo è in modo esasperato al cubo in Italia, punto numero uno. Secondo, cos'è la peculiarità italiana che non ha nessuno di questi altri paesi? Uno Stato arcaico, autoreferenziale e autoritario. Siamo l'unico paese che non ha mai conosciuto pienamente uno Stato socialdemocratico né ha sperimentato pienamente gli strumenti del liberismo. Abbiamo stratificato un tentativo del primo e alcune letture abborracciate culturalmente molto modeste del secondo. Questo ci caratterizza. Allora, le questioni che discusse nei primi interventi, salvo l'ultimo, riguardano la peculiarità italiana e spiegano e servono a spiegare se sono giuste e a contrastare, se è giusta non solo la diagnosi ma anche la terapia, il fatto che solo l'Italia si trova in una situazione di blocco assoluto e totale dello sviluppo da 20 anni. Questo, diciamo, se il problema fosse solo europeo non si capisce perché la Germania sta nelle condizioni in cui sta, la Francia sta nelle condizioni in cui sta, la Gran Bretagna sta come sta e noi stiamo in una situazione di assoluto blocco dello sviluppo dal punto di vista sia di ogni metodo del capitalismo sia dal punto di vista dell'inclusione sociale. Cioè, come la guardate? Tanto da essere sull'orlo di una crisi, dice, ma c'è la Grecia, che c'è un piccolo paese, grande come la nostra regione, noi siamo l'unico paese di queste dimensioni che sta sull'orlo di una gravissima, gravissima, pericolosissima crisi sociale, ci sono tensioni nel paese di enorme portata che sono state intercettate, se Dio vuole, dal Movimento 5 Stelle, come dice il suo male, non ci piace, quello che volete, sono state intercettate, quindi non ce le rendono visibili, noi siamo su una polveriera e questo non è vero per il resto d'Europa. Poi si aggiunge per l'Europa un fatto semplicissimo, ovvero sia che scientemente è stato costruito un processo di integrazione economica che non aveva la politica né il convincimento che questo creasse uno squilibrio e che da questo squilibrio l'intelligenza degli uomini, perché si proiettava, lì erano tutti uomini, maschietti, diciamo, erano Gonzales, erano Mitterrand, erano Kohl, è stata proiettata la loro intelligenza in avanti e si è detto creiamo una situazione squilibrata, cioè togliamo ai paesi sovranità nazionale, e noi l'abbiamo potuto fare solo grazie al fatto che la nostra Costituzione ce lo consente, in nome della pace e della giustizia, togliamo agli stati sovranità nazionale, una parte di questa evapora perché non la diamo a nessuno, perché non è stata data a nessuno, né e poi lo squilibrio che creiamo, che determina le cose che ha ricordato Paolo, lo squilibrio verrà ovviamente sanato perché la situazione di squilibrio sarà tale che la politica reagirà. Questo è stato scientemente costruito dai tecnocrati socialdemocratici come postazione, che parliamo di persone di altissimo profilo anche italiane. non è che è stato costruito a caso. E di questo discutevamo in Banca d'Italia con Frankie Hahn, che ci guardava, con un economista, perché poi non è che gli economisti sono, che diceva: ma voi siete fuori di testa, cioè non c'avete un Parlamento, perché fate questo passo nel vuoto? Ok. Quindi, sbagliato giusto che fosse, la situazione europea è stata costruita ad arte. Adesso noi stiamo dentro al casino. È evidente che può essere che tra 20 anni viene fatto il grande salto politico, perché e quindi tra 20 anni giudicheremo in modo diverso questo atto d'azzardo tecnocratico che è stato di costruire uno squilibrio. Le due cose si tengono, se notate, in quella paroletta che ho detto. Mentre i passi precedenti dell'Unione Europea, contrastati, discussi, dibattuti in Italia, ricordiamoci quando nasce l'Europa, il Partito Comunista, il suo travaglio, il suo voto negativo, il dibattito a Mendola, tutto il resto, in tutta Europa viene vissuto dai popoli, questo passaggio non è stato vissuto dai popoli perché non esistono, perché i partiti sono in crisi, punto. Quindi la vicenda europea è una manifestazione a livello europeo di una perdita di sintonia fra società e Stato e di un affidamento alla tecnocrazia di decisioni importantissime ed altissime. Ci può piacere o non piacere, ma questo è quello che è avvenuto. Questo, qui è come si tiene la questione europea. Quindi, se noi non quindi perfino la questione europea va ripresa di petto in questo modo. Dimostrazione? Diciamo, se i padri che hanno pensato a questo passaggio, cosa si aspettavano? Che i partiti europei si mobilitassero. Che il Partito Democratico Italiano, il Partito Socialdemocratico, o Linke, o il Partito Socialista Francese, che avevano dialogato sull'eurocomunismo, hanno dialogato sulla terza via, non esistono in questa congiuntura. È stato costruito un Parlamento che aveva che volendo poteva diventare, perché ha più potere uno strumento di questa cosa. Non è successo nulla. Quindi chi è venuto a meno all'appuntamento? La politica, i partiti, che non potevano, la politica e i partiti. Il Partito Democratico non poteva dire, come potrebbe dire oggi, che siamo in violazione costituzionale. Noi stiamo violando la nostra Costituzione, perché noi abbiamo ridotto la nostra sovranità nazionale e questo è giustificato se aumenta la pace e la giustizia. La giustizia sta riducendosi, sia da noi che negli altri popoli. Quindi noi siamo in violazione costituzionale. Qualcuno ha posto in termini politici la questione? È oggetto di dibattito all'interno del Paese? No. Quindi è una questione politica, non è una questione tecnica, ed è dibattuta ovviamente in raffinati incontri che alcuni think tank in giro per l'Europa fanno, non è che lo sto dicendo io, è particolarmente originale, e che non è parte del patrimonio del dibattito politico e culturale del nostro Paese. Quindi la questione europea si tiene nell'impianto, l'impianto che io suggerisco in questo documento è un impianto che consente di comprendere anche questa parte. E però, se anche l'Europa fosse in condizioni migliori, noi saremmo comunque alle pezze, perché la crisi dei nostri partiti è al cubo, nessun altro ha la crisi che abbiamo noi, e perché il nostro Stato non ha paragoni, non ha paragoni. Allora, i 20 anni di insuccesso, secondo me, della parte italiana, quindi accantonando nel modo in cui ho detto la questione europea, derivano secondo me da due cose. Una è stata detta con riferimento al prevalere della zona grigia, io la chiamo, utilizzando anche una letteratura che è anche di mainstream economico ravveduto, diciamo, la prevalenza in Italia di classi dirigenti estrattive, storicamente si potrebbe, che vogliono tenere la situazione dello Stato in cui è, che per, essendo questa situazione favorevole alla capacità loro di estrarre rendita. Detto in una frase banale, sono gruppi estrattivi che non riguardano solo la politica e l'amministrazione, riguardano il sindacato, riguardano l'impresa, riguardano i mass media, riguardano il mondo dell'università, riguarda tutti noi, i quali, come dire, alla fine, complessivamente e collettivamente, preferiamo estrarre una fetta certa di una torta che si riduce, piuttosto che rischiare la nostra fetta di una torta che crescesse. Non è che non sappiamo come si fa a cambiare. Sappiamo benissimo come si fa a cambiare, che non abbiamo nessuna voglia di cambiare. Le classi dirigenti di questo paese non hanno intenzione di cambiare. Okay. Una parte delle classi dirigenti di questo paese forse sono disposte al cambiamento per illuminazione, per volontà, perché non hanno una fetta particolarmente grande. Quello che volete, no, ma i motivi sono questi, diciamo, non è che il mondo va così, se pensiamo che la nostra identità sia plurima, noi siamo al tempo stesso, abbiamo spirito pubblico, egoisti, ognuno di noi, viviamo in tante identità. e quindi, come dire, e giochiamo, come ci ricorda Sen, a seconda delle situazioni. Per questo contano le istituzioni, per questo vale la pena di fare politica, perché la politica sono le idee che decidono in che modo, che partita giochiamo della nostra vita, chi siamo. Poi ci sono ovviamente i ladri e Gesù Cristo, però i Gesù Cristo sono pochissimi, i ladri sono parecchi, però quelli sono irrecuperabili. Okay. Esiste però quello su cui io mi soffermo, non è tanto il primo punto, perché se ci fosse solo il primo non ci sarebbe molta trippa per gatti, ma sul secondo. Esiste, secondo me, questa parte di classe dirigente che potrebbe cambiare, o che ne ha voglia, o che ci sta provando, è affetta da un'egemonia culturale di cui che voi avete riassunto e che non devo quindi ripetere, che è l'egemonia culturale di una visione in base alla quale la conoscenza è, che è la degenerazione di un pezzo che nella socialdemocrazia c'era e non c'era, era presente, che era cioè la conoscenza è di pochi. Nella consapevolezza che aveva la socialdemocrazia o alcune, e particolarmente alcune socialdemocrazie, che in realtà si erano già spinte nella direzione di quello che io chiamo sperimentalismo democratico. I processi, le fasi, uno le racconta perché fa comodo raccontarle così, ma sono tutte cavallate. La citazione che faccio della lettera di Willy Brandt, in cui lui cita, si vede palesemente, il Partito Socialdemocratico Tedesco aveva ben presente i propri limiti. Uno che dice nel 1976, una frase della modernità del dire, che è più importante di capire quali sono i profili della qualità della vita da tutelare e capire come sia il processo attraverso cui si arriva a identificare quali sono. Scusate, che il più importante di tutelare i profili della qualità della vita è il processo attraverso cui si arriva a identificare quali sono i profili della qualità della vita da tutelare, è uno che sta già nella modernità, e quindi la socialdemocrazia aveva in pancia questo pezzo. Nonostante questo, va a sbattere, ed è per questo che il giudizio di Tony Judt, per cui che è semplificatorio, basta tornare, abbiamo buttato via un bambino, che era è un giudizio sbagliato, che ci porta a sbagliare, che ci porta a non riflettere sulle ragioni che hanno determinato, una che richiamo nel mio lavoro, nella mia memoria, che era quella vecchia idea del Partito Comunista: voi potrete fare socialdemocratiche fino a che i profitti saranno altissimi, e quando i profitti si ridurranno non ce la farete più. Ed è quello che è avvenuto, perché la generosità del modello di welfare ha determinato, perché se noi ci dimentichiamo sta roba, ma almeno tra di noi ce la dobbiamo dire con franchezza, la generosità del modello di welfare era incompatibile col capitalismo, punto. Ci sono elementi, altri elementi della socialdemocrazia, volete che vi dica, che secondo me sono incompatibili col capitalismo? Ve ne dico uno che appartiene al mio patrimonio di studi più approfondito: le modalità con cui negli Stati Uniti si regolava il conflitto storico, fondamentale del capitalismo, che è il conflitto fra chi risparmia e chi controlla il capitale. Le modalità, la forza enorme dell'autorità di regolazione, l'enorme potere dei tribunali ha determinato degli effetti di destabilizzazione del sistema di controllo. Non è che improvvisamente un sistema si inventa, demolisce il sistema delle corti, il sistema delle regolazioni del capitalismo perché i cattivi hanno vinto. Lo fa perché il capitalismo americano durante gli anni 70 si convince di andare in ballo, che arrivano i giapponesi eccetera eccetera, esce da quella crisi nel convincimento che può trovare un altro modo e inibisce il potere discrezionale dello Stato, che sono le corti di giustizia e lo Stato. Quindi questo è un passaggio a cui io tengo moltissimo sul piano concettuale, perché se non lo capiamo noi rischiamo di riproporre delle modalità, come Tony Judt rischia di suggerirci, che della socialdemocrazia non prendono le sue parti migliori e il suo disegno generale, come giustamente mi invita a fare, ci sono delle ambiguità nel testo, mi invita a fare Biasco, che ho letto le tue cose che ritengo estremamente corrette, perché ci sono delle ambiguità nel testo, anche se nel testo io parlo di socialdemocrazia, parlo di criticità, quando parlo di liberismo e marxismo parlo di fallimento, che sono due parole abbastanza chiare. Come pensa di risolverla? Pensa di risolverla il liberismo e determinando quell'effetto di commissariamento della politica, come tu hai detto, con una genialità straordinaria che è la contrattualizzazione, cioè tutto va a contrattualizzare, non abolendo i servizi pubblici, non abolendo la regolazione del capitalismo, ma pensando che da discrezionale possa diventare automatica e contrattualizzata. Quindi non è che io non voglio più. Cioè neanche gli Stati Uniti nei momenti peggiori accettano che muoiano le persone sulle scalinate di una chiesa. Ritiene che la maniera migliore sia quella della contrattualizzazione, che è una che sconta un'ipotesi di iperrazionalismo anti-hayekiana, scrivo io nella mia memoria, cioè che di una conoscenza assoluta dello Stato, è uno Stato minuscolo ma potentissimo, talmente potente, quindi, come dire, porta alle estreme conseguenze l'ipotesi di razionalismo della socialdemocrazia, fino a farne uno strumento tale che 10 persone, scrivendo le regole, possono regolare, e noi in Europa sappiamo che vuol dire, recommendations e tutta questa, sul piano pubblico, eccetera. Questo è l'impianto. A me questo impianto serve politicamente, perché con questo impianto, quando lo uso in modo forte, riesco a comprendere la deviazione, diciamo, di compagni che sbagliano, cioè di coloro, in altre parole, che non appartengono alla prima categoria ma alla seconda, che continuano a ripetere che il problema dell'Italia è il problema della concentrazione, quindi il presidenzialismo, il vicepresidenzialismo, il potere del Presidente del Consiglio, chi più ne ha, la semplificazione della complessità, tutto si risolve semplificando, tutti gli slogan che la sinistra ha fatto proprio in questi ultimi 10 anni, la parte migliore, quando non era frutto del fatto di connivenza col nemico, era frutto in larghissima misura di questo convincimento. Io, questo per me è quasi l'unica cosa, ho voluto ribadirle, scusatemi se mi sono preso più tempo del, perché questo punto è il punto fondamentale, non è la passione per il fatto che la mobilitazione delle conoscenze, che è bello, perché poi questo che si può fare solo per alcuni beni, si può fare per tutti i beni, poi diciamo adesso la cosa diventa complicata, non voglio entrarci, perché, anche perché non avete sentito Biasco e non voglio entrare in dialogo con lui senza che lui abbia detto la sua. Ed è vero che la gradazione della mobilitazione va molto misurata, ma persino su questioni, ne dico una per cogliere solo la vostra attenzione, persino su questioni enormi come la decisione se partecipare o no a una guerra, esiste una cosa che si chiama mobilitazione cognitiva, perché guarda caso milioni di persone nel mondo avevano capito tutte meglio di quegli 8 imbecilli o conniventi che avevano letto in un... Perché? Perché per fortuna nel mondo della rete oggi tutti noi leggiamo i documenti non perché eravamo emozionati e non ci piaceva andare in Iraq, perché avevamo letto le carte e c'erano milioni di uomini che avevano letto quelle carte. Mobilitazione cognitiva è quella che è avvenuta e che ha quasi evitato la guerra in Iraq, ma lo ha fatto sulla base di carte. I gruppi dirigenti dell'amministrazione di Piazza San Giovanni, quel gruppo dirigente non era un gruppo di cretini, era un gruppo di ragazzi straordinari, che purtroppo poi non ha retto alla prova, che aveva elaborato una piattaforma straordinaria. Quella è un esempio di mobilitazione cognitiva, di forze che dimostrano di sapere collettivamente molto più e di, come dire, cold bluff di quelle 7 persone. E lasciatemelo dire ancora per tornare all'Europa, ma dove pensate che siano maturate le fesserie degli ultimi 2 anni, poi in parte, grazie anche al ruolo di Mario Monti, fermate, quelle che hanno dominato il rapporto fra Sarkozy e Merkel, ma parliamo di 7 persone, 2 advisor dell'uno, 2 dell'altro e 3 cretini a Ecofin, a Bruxelles. No, ma è così, sono 5 persone, 6 persone che hanno preso delle decisioni, dicendo che questa è la cosa che andava fatta, che è evidente che andava fatta così, che si fa così. Pensate al livello di egemonia culturale, quindi tu per destabilizzare sta roba hai bisogno di mettere in moto dei meccanismi che coinvolgano, che tornino a coinvolgere i partiti. Ok. Dico pochissimo altro perché l'avete descritta già bene, non è soltanto quindi metodo, prima di tutto, perché il solo fatto di pensare che sia questo il modo in cui funziona lo Stato, sperimentalismo democratico, e funzionano i partiti che rappresentano l'organizzazione della società che fa l'interfaccia a uno Stato che funziona così, è in sé un convincimento forte, è un pezzo forte dei convincimenti, è in sé un convincimento di sinistra, e infatti è la sfida che la sinistra lancia alla destra, che si unisce alle altri forti convincimenti che riguardano la giustizia, il lavoro e altri, ma è un pezzo forte di questi convincimenti, tra l'altro è una ricomposizione, è una roba che ridà il ruolo alla persona, che era ciò che la socialdemocrazia ha fatto fatica a fare, quindi per un partito come il Partito Democratico, a cui io mi rivolgo, è anche un modo di rivolgersi al meglio della sua cultura. Non a caso, se oggi rileggi lo scontro fra Dossetti e Fanfani, che mi è capitato di rileggere, che c'è un libro su Dossetti che è appena uscito, tu rileggi esattamente lo scontro fra 2 visioni in cui Dossetti, i motivi suoi, la cristianizzazione della società, comunque sia, il metodo che lui propone è un metodo che coinvolge la società, il metodo di Fanfani, che poi quello che passa è un partito che scompare e diventa governo. Cioè, voglio dire, ci sono alcune ricorrenze importanti che sono dentro la pancia anche di una parte delle persone che sono entrate poi oggi nel Partito Democratico. Quindi questi 2 pezzi sono chiari. Reagisco ad alcuni punti, perché il problema fondamentale è la traversa. Ammesso che questo vada, ammesso che in questo meccanismo la pluridentità di ognuno e la duplice dimensione, spirito pubblico ed egoismo, si estrinsechi nel migliore dei modi, non rimuovendo i conflitti, non rimuovendo le dicotomie, ma considerandole parte del nostro essere, addirittura all'interno di ognuno di noi, lasciandoli all'interno di ognuno di noi, e quindi con una valorizzazione e protagonismo dei giovani che oggi essi pretendono e che sono i giovani che abbiamo partorito noi, perché ce la siamo inventato noi questo protagonismo individuale ed egoistico nel 68, quindi diciamo sarebbe anche ora che prima di andarcene diciamo riusciamo a rimetterlo su dei binari un po' più dignitosi di quelli che cui l'ha messo il liberismo. Ammesso che tutto questo ci sia, c'è un problema di traversa, cioè come diavolo passi, ammesso che tutta questa roba vada bene, come passi dalla situazione attuale a quella di dopo? E qua, diciamo, il discorso è lungo e spero che ci ritorneremo nelle prossime discussioni, reagisco. C'è un piano normativo, c'è un PD e c'è un fuori PD. C'è un piano normativo, quindi io penso che vi sia un rischio a una norma, perché potremmo arrivare al paradosso di pretendere noi, o perlomeno io che ritengo che con le norme, che le norme non possono in sé contenere, ma sono soltanto di principio, sono l'avvio, perché in realtà è solo attraverso il processo attuativo in cui mobiliti le altre conoscenze che tu dici io adesso di disegno il partito perfetto, quindi ci può essere un rischio, che però non mi conduce a dire di no, ma mi conduce, nelle discussioni che stiamo facendo anche con Ignazzi, a subordinarlo al finanziamento pubblico, cioè a indicarlo come ti do un finanziamento pubblico, riconosco quindi un bene pubblico, non arrivo alla forzatura, perché oggi apparirebbe come una incastratura in una situazione complessa. Perché non deve apparire che per l'accesso alle elezioni bisogna avere... Perché mi sembra troppo forte, mi sembra supponente rispetto a che qualcuno oggi arrivi e dica mi è così chiaro quali sono le regole della democrazia interna di un partito che arrivo a pretendere di dire che se tu non le rispetti non puoi andare alle elezioni. Non me la sento, mi sento ignorante, dopodiché non me la sentirei, non perché non si può fare, perché per le stesse, mentre mi sentirei di dire rischio, ha un rischio minore, non arrivo a negarti l'accesso alle elezioni, però francamente, dato che sono io Stato che ti devo, perché quello è su un piano più alto, non arrivo a negarti il diritto costituzionale di accedere alle elezioni, quindi non lo faccio come interpretazione del 49, ma lo faccio perché se ti devo dare dei soldi pubblici, io pretendo di avere una delle caratteristiche rafforzate. Non mi chiedere di più, sei troppo più robusto di me su questo terreno per chiedermi di più, non sono in grado di andare oltre. Circa il di cui del finanziamento pubblico, invece condivido pienamente quello che hai detto, penso che vadano messi dei limiti al finanziamento privato, aggiungo che non trovo assolutamente irragionevole le deduzioni fiscali che sono state introdotte, perché sono deduzioni fiscali che in realtà costringono qualunque cittadino a dare soldi e fondi a tutti quanti gli altri senza nessuna condizionalità. Penserei appropriate delle forme di limitazione dell'importo, anzi indispensabili, e l'aggiunta di forme di finanziamento di scopo, a cui facevo riferimento peraltro anche nella mia memoria, che valorizzino quelle come finanziabili e finanziate quelle forme di lavoro formativo, aggregativo, che è necessario all'idea di partito che propongo, cioè che di uno svolgimento, non quindi gli spot televisivi, tanto per essere chiari, ma invece tutte quelle attività che rappresentano nel giudizio che io do un bene pubblico, aggiungerei anche, ecco, insomma, per ora basta. Gli enti pubblici, le società per azioni possono finanziare le persone giuridiche. Persone giuridiche pubbliche mi sembrerebbe assolutamente strano. No, ti sto dicendo. Quindi no, ma va bene. Va bene. Comunque l'obiettivo, essendo che alla fine della storia il finanziamento di coloro che partecipano, non necessariamente degli iscritti, di coloro che partecipano possa tornare a costituire una percentuale maggioritaria del finanziamento dei partiti. Nel Partito Democratico, parlando di trave, questo sul piano normativo, però non è con le norme che si costruiscono i nuovi, quindi il punto fondamentale è capire se c'è... Sì, ho capito, non può essere solo con una norma, non ci si arriva, non basta. il problema è che ci sia un partito che decida di darsi una diversa funzione. Quindi io vedo tre cose per il Partito Democratico. Una, e sono molto cauto, perché ritengo che la devastazione culturale di cui stiamo parlando sia talmente profonda che non esistono in questo momento delle ricette che consentano di ricostruire di un colpo solo i convincimenti, la visione di cui, che giustamente tu, Laura, sottolinei, cioè la visione dell'Italia, che poi è la cosa fondamentale che tu devi proporre. Cioè tu, è evidente secondo me che il senso profondissimo di impotenza che ha caratterizzato le persone più franche, più oneste, più sincere, più trasparenti del Partito Democratico è quello che ha condotto a una campagna elettorale del non so bene cosa dirti. È stato un atto di lealtà nei confronti degli italiani, perché il Partito Democratico non era in grado di realizzare né di presentare una visione. Visione vuol dire chiudi gli occhi, gli anziani tra 15 anni, le aree interne del paese, le città, come sono fatte le città metropolitane del paese? Questa è una visione di un paese, no? Però poi la presenti se anche hai una idea su come raggiungerla, poiché un'idea su come raggiungerla non ce l'ha il Partito Democratico oggi. È bene per certi versi, lo dico con amarezza, che non abbia raccontato delle frottole, e quindi poi però gli italiani, se non gli racconti un cambiamento, votano evidentemente. Quindi per arrivare a farlo, per arrivare ad avere dei convincimenti abbastanza robusti che sostengano una visione, perché non costruisci una visione senza dei convincimenti, e aderire a un metodo, quello che io suggerisco, riscritto 20.000 volte, le mie sono solo principi, che si dimostri attuabile, ma se non c'è un metodo, se non c'è un'idea di come risistemare lo Stato, è inutile presentare qualunque visione, che oggi con l'attuale stato dello Stato non si realizza. Quindi un partito che secondo me voglia aprire una traversa è un partito che apre uno spazio di confronto interno su questo tema, che faccia delle modifiche statutarie significative che vadano oltre, non necessariamente richieste. Con una legge che gliene impone? No. Con una legge, l'ho appena detto prima, che gli impone alcuni requisiti minimi di democrazia, che sono quattro righe che io non so scrivere, ma che tu sicuramente altri sapreste scrivere. Quattro righe di principi, che poi il Partito Democratico applica al cubo, perché è un partito che attrarrà in questo modo, e tra queste c'è, ne dico una nel mio testo, ce ne sono tante che ho in testa, che riguardano il modo in cui funziona la rete. Oggi il Partito Democratico non è un Partito Democratico, perché non sono in rete le unità territoriali del Partito Democratico, quindi la prima cosa che deve scrivere nel proprio statuto, c'è scritta una frase che non è attuata: non sono in rete le unità del Partito Democratico, non c'ha formazione, o ha una formazione antichissima e quando è stata approvata non ha funzionato, non esistono diritti degli iscritti. Quali sono i diritti degli iscritti in un sistema di elezione in cui uno non iscritto o un iscritto sostanzialmente ha diritti simili? Questo non è un elemento di democrazia di un'associazione, non ha diritti. E quarto, secondo me più importante di tutti, riguarda le regole durissime concernenti la partecipazione di persone, l'accettazione da parte di persone iscritte al Partito Democratico in qualunque tipo di ente pubblico, perché non può essere tollerabile che nessuna persona iscritta al Partito Democratico entri in un ente pubblico di qualunque tipo, a meno che le modalità di reclutamento non siano meritocratiche. Perché è questa regola statutaria e la sua applicazione, perché il Partito Democratico è pieno di regole statutarie che sono derogate. Se vai in giro per l'Italia ti raccontano che quello che sto facendo deroghe, è una somma di deroghe. Alcune norme sulla statutaria sono interessanti, il problema è che sono derogate. Questo ti risolverebbe il problema dell'adverse election, cioè del fatto che il Partito Democratico ha attratto persone che pensavano di realizzare se stessi, che va benissimo, anche questicamente, ma facendo carriera nel partito, perché sarebbero stati piazzati in qualche posto, non perché diventavano più capaci e magari concorrevano a essere eletti. Quindi diciamo, io credo molto alle regole statutarie, credo come segno che è un partito diverso. E poi ultima dimensione, quella territoriale, perché sono credo che i processi non siano solo mai né induttivi né deduttivi. Ci sono delle operazioni che il Partito Democratico può fare oggi, anche indipendentemente dalle prime due, che riguardano le proprie unità territoriali, perché non è che il Partito Democratico è un partito strambo dove la gente non abbia già capito quello che sta scritto nelle cose di cui stiamo parlando. Lo sperimentalismo democratico e la mobilitazione cognitiva è praticata in molte parti del territorio, perché la gente è sveglia, soltanto che è praticata in isolamento, in solitudine, non solo solitudine solo degli amministratori, ma anche loro, trovando degli amministratori che non li stanno a sentire, quindi, perché non è sistemica, nessuno sa nulla delle esperienze incredibili che mi vengono raccontate, e non professionale. Questo è un punto delicatissimo che riporta la formazione. Oggi fare, come insegnano le esperienze americane soprattutto, fare il community organizer o il facilitatore o il mobilitatore o l'organizzatore di collettività è un mestiere, è una cosa che richiede apprendimento, richiede empatia, richiede delle capacità di leadership, non richiede necessariamente delle grandi competenze specialistiche, quindi aperto a tutti, tra l'altro, dal punto di vista sociale, ma richiede delle competenze professionali che oggi sono completamente fuori, quindi esiste una potenzialità straordinaria su questo fronte. Poi, e mi azzitto perché ho parlato troppo, esiste un fuori del PD che è enorme. Io dico soltanto una bellissima espressione che ho sentito al Circolo Rosselli, dove sono andato a parlare a 40 persone a Milano, 3 ore di Milano, ed è l'assedio culturale al PD. Bene. Benissimo, intanto una raccomandazione a chi interverrà di fare uno sforzo di iperconcentrazione. Chiedo ad Elena di darmi il cambio, francamente. No, dammi il cambio. C'era Edoardo che deve andare via, che chiedeva di anticipare il suo intervento. Il polirite è seduto per terra. Lo so, va bene, intanto lo facciamo così. Vieni qui. Almeno per un momento stai seduto. Mi sembra di stare nei vecchi collettivi. Coraggio, Edoardo Reviglio. Sì, eccomi. Aspetto che sarò velocissimo. Io devo dire che da 2 giorni ho di nuovo un po' di ottimismo. Ero arrivato a un punto in cui facevo fatica a leggere i giornali. Mi sentite? E devo dire che ho recuperato un po' l'ottimismo, convinto che in qualche modo se si riusciva a uscire da questa situazione era attraverso l'elaborazione di nuove idee. Ieri siamo stati alla presentazione di un libro in onore di Stefano Rodotà, il suo compleanno, 80 anni, e devo dire che si è parlato della persona, il passaggio dell'individuo alla persona, si è parlato di diritti, di doveri, di costituzione, di sovranità. Ecco, c'erano delle idee importanti. Mi sono riletto il manifesto di Fabrizio stamattina, l'avevo letto rapidamente qualche tempo fa, e ci sono delle altre idee. Quindi da questo punto di vista credo che 2 semi molto importanti stanno emergendo nella sinistra italiana, e su questo mi dà speranza, ecco. Questo è un primo punto, come così da dire, da neo militante o da militante da sempre, in una sinistra che in qualche modo sembra sperduta. Io ho 3 figli, stanno poi all'estero e sono anche loro un po' perduti, e cerco di dargli speranza, non è facile. Ecco, qui credo che abbiamo 2. La prima impressione, e Fabrizio lo dice verso la fine, è il percorso, ok? Va bene, tutto questo è tutto molto giusto. Abbiamo un'urgenza, i tempi, come faremo, le forze che si contrappongono o che si andranno a contrapporre alla realizzazione di questo tipo di programmi, non sarà facile. Allora ci vuole un percorso. È anche vero che le grandi idee si sviluppano molto più rapidamente, si diffondono molto più rapidamente di quello che possiamo immaginare, però abbiamo certamente un'urgenza. Ecco, questo era un pochino quello che volevo dire. L'altro aspetto è più sull'economico. Io, come Fabrizio, sono più giovane, ma l'ho seguito nei suoi studi, mi sono occupato molto di storia economica europea e italiana. Ci sono dei riferimenti a alcuni modelli, esempi del secondo dopoguerra, il sistema dell'economia mista, lo conosciamo tutti, non voglio entrare nel merito perché prenderebbe troppo tempo. Oggi è necessario ripensare alcuni di quegli strumenti in una logica probabilmente europea. Io sono alla Cassa Depositi e Prestiti da 4 anni, una grandissima opportunità per il Paese, ma attenzione, vediamo che venga fatta bene. E su questo mi sembra che anche le forze della sinistra non dicono una parola, e non solo non dicono una parola, non intervengono. A parte Franco Bassanini, che devo dire va ringraziato perché comunque è un uomo onesto e di visione, è un tema molto importante e va in qualche modo connesso con quell'altro sistema di grandi banche pubbliche europee che sono la KfW tedesca, la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, la Caisse des Dépôts francese, con gli strumenti per lo sviluppo, con l'Unione Europea e con la crisi del sistema bancario europeo, con la governance, con Basilea 3, con tutta una serie di strumenti e regole molto complicate che però devono restituirci un modello nuovo. La governance, questa cosa estrattiva del capitale rispetto al lavoro, che è diventato ormai un elemento insostenibile, rischia veramente di provocare dei disastri sociali di dimensioni epocali. Ecco. Allora, grazie per questo documento, penso che abbiamo molto materiale per poter studiare, fare, andare sul territorio soprattutto, perché come dicevi esistono esperienze importanti che vanno valorizzate e vanno messe, come dire, in rete. Grazie. Se hai Sì, grazie. Dopo questo secondo intervento di Fabrizio veramente sarebbe più necessario riflettere che fare domande, ma dato il tempo brevissimo a disposizione mi limito a fare una domanda, appunto, perché il documento e i suoi discorsi sollecitano molto la nostra fantasia. Principalmente su questo punto, siamo vittima di passioni tristi e questo suo documento e i suoi discorsi invece riattivano improvvisamente qualcosa che sembrava molto spento, qualche speranza, quindi moltissime domande e in rapporto a questo le speranze sono modeste, almeno le mie personali, però vale la pena di crederci un attimo e di investirci un po' di intelligenza e di attenzione. E quindi qui il punto, per andare molto per le spicce, è questo. A quale oggetto si applica questa terapia, chiamiamola così, no? Questo oggetto certamente da Fabrizio stesso e da molti di quei qui presenti è molto conosciuto, molto più che da me, questo partito. Che cos'è? Che grosso animale è? Perché alcune cose qui sono state dette, ma si è sottolineato soprattutto il fatto che questo partito si è appoggiato allo Stato, per così dire. Questa simbiosi che già, credo, Berlinguer tanti anni fa aveva denunciato è certamente un aspetto. Però attenzione, questo è l'unico partito del sistema dei partiti in Italia che ha mantenuto una forte struttura, malgrado sia un ghiacciaio in scioglimento, una forte struttura anche territoriale organizzativa. C'ha una sua logistica, diciamo, questo animale. E questo animale non è fatto soltanto di gruppi dirigenti, di funzionari, cosiddetto apparato, ma di interessi sociali legati a questo apparato. Nell'insieme una grossa forza sociale, soprattutto in alcune regioni, in altre regioni è quasi assente, è vero, ma in alcune regioni è molto presente. E qui vedo una difficoltà, cioè questa difficoltà che mentre gli altri partiti in quanto partiti di proprietari si possono spostare, smontare, si può cambiare quello che si vuole, ci sono, si sciolgono, si riempiono come si vuole, questo partito non si può modificare a piacimento, proprio perché ha un corpo e una struttura molto pesante, pur essendo in diminuzione ancora molto pesante. E anche gli accenni che ha fatto Fabrizio in questo suo intervento lo dimostrano. Cioè, allora, come si può intervenire su un oggetto di questo genere? Non dall'esterno, non si ottiene nessun risultato. Forse dall'interno, ma dall'interno, mentre si può immaginare una specie di quella che una volta si chiamava la battaglia culturale per l'egemonia, cioè fare cambiare l'idea alla testa della gente, questo può avere un certo grado di successo. Attenzione però che nel frattempo va avanti un altro piano del discorso e anche un altro stile comunicativo, e anche altri contenuti, cioè un blairismo senza guidance, diciamo, di Renzi, per esempio, no? Una specie di ipotetica, a suo modo, terza via fiorentina al governo del paese, di cui non si sa nulla in termini di contenuti, di programmi e quant'altro, però di cui si possono sospettare molte affiliazioni con comunque neolib, comunque le si voglia poi rigirare, magari più garbate, perché lo stile fiorentino non è più quello del vecchio segretario di Firenze. Ma insomma, una competizione forte, quindi dentro questo animale tra idee intanto, progetti e programmi. Ma questo come potrà avvenire? Perché questo non può essere risolto né con le leggi tanto care a Luigi, né con, diciamo così, regolazioni interne nuove, anche se queste certamente sono necessarie, doverose e possono aiutare, però... Facile cambiare la Costituzione, e cioè siamo sempre a cambiare la Costituzione attraverso leggi costituzionali. Diventa impossibile fare una legge sui partiti. No, questo facciamo. È un mistero. No, io personalmente la voglio la legge. La legge sui partiti però non mi risulta. È uscita oggi una legge costituzionale che trasforma il potere costituito, e cioè il potere di emanare legge di divisione, in un potere costituente, cioè di riscrivere da capo la nostra Costituzione. Questo è successo oggi, va bene? Dopodiché noi viceversa, di fronte alla possibilità di riformare i partiti, ci fermiamo perché questo è impossibile. No, finisco subito, per carità, solo Luigi si viene stuzzicato su questo aspetto, poi diciamo, no, voglio dire che Come si fa? Ecco, allora la domanda per chiudere è questa. Si vuole. No, non basta volere, bisogna essere capaci, è la volontà, non è quello. È la formula di Walter. Bisogna essere capaci di farlo, capaci di farlo. Riformare la Costituzione, riformiamo il partito. Riformiamo il partito, ma siamo capaci di riformare un animale di questo tipo? Questa è la mia domanda a Fabrizio, che certamente ci ha pensato, che anche era implicito nell'intervento precedente. Cioè, i primi passi, quali sono per questo tipo di mutamento? Qualcuno ha chiesto i primi appuntamenti, fuori e dentro questa grande macchina, perché altrimenti, vuol dire, queste speranze sono così un po' velleitarie, sono necessarie per sopravvivere, ma non ci portano molto lontano. Grazie. Grazie Carlo. Estefano, vuole intervenire? Non è obbligatorio. Abbasso, viva! Sì. Quello ha ragione, quell'altro ha torto. No, una prima cosa era una annotazione, diciamo così, socio-antropologica. Un libro è cascato dallo scaffale a casa mia, l'ho raccolto. Era una cosa del 61, con uno scritto, sì, con uno scritto di Ottiero Ottieri, era il Menabò, un numero, il Menabò del 61. E lui diceva: stavo selezionando per la Olivetti dei giovani operai, è venuto uno che viene dalle campagne piemontesi, famiglia povera, e ha fatto tanti sforzi, insomma, si è promosso così. Però ciò nonostante non va bene, non lo posso assumere, infatti non l'ho assunto. E poi dice: ma com'è possibile? Qui siamo, insomma, persone avanzate, in una zona avanzata, con dei progetti di così, promozione delle classi inferiori, eccetera, però un ostacolo così io non lo posso superare. E dice: l'unica maniera, perché i villici, i contadini, i figli di famiglie ignoranti, quelli che invece ignoranti non sono, gli operai di fabbrica, gli impiegati, le varie classi sociali, possano parlarsi e hanno cose da dirsi, è un partito, il partito. Se non c'è il partito, a questo non si arriva. Allora, non è che questa cosa sia stata quasi estinta per il fatto che questo non è più un paese con gli analfabeti, che insomma certe cose che esistevano erano gravissime nel periodo tra le due guerre, sono diventate obsolete. In realtà questo problema si ripresenta in forme anche gravissime. Perché c'è una come dire, inedia e bulimia allo stesso tempo culturale. Se guardiamo i numeri della popolazione, ma quanti vedono soltanto Mediaset? Quanti scommettono in massa su questi nuovi circuiti di gioco d'azzardo e stanno crescendo nelle maniere più... Allora, questo problema è uno dei problemi, se vogliamo realizzare proprio questa, come dire, questo desiderio di migliorare la società, sapendo che alcune cose possono avvenire con dei gesti, delle iniziative molto astratte, come per esempio quella di vergognarsi di avere votato come legge costituzionale il pareggio del bilancio, perché quello è... lo stiletto messo al cuore, quello è il veleno. E allora smettere per esempio di accettare l'idea che al massimo e al meglio per i disoccupati si possa metterli in cassa integrazione, perché un signore che sta sulla bocca dei liberisti, ma non era come loro, diceva che il lavoro è ricchezza, anzi è la ricchezza delle nazioni. Ora, le persone messe in cassa integrazione sono una ricchezza a cui si rinuncia. Allora, su questo benissimo, può essere, deve essere al centro del lavoro di elaborazione che si fa nelle sezioni, però al momento chi è che si iscrive al partito? Beh, molti come noi che hanno detto vabbè, non facciamo gli impazienti, stiamo a vedere, si può sempre raccontare qualcosa, eccetera, eccetera. Ma si iscrivono persone che dicono adesso ti aiuto a preparare le primarie, però mi devi dire subito che posticino mi puoi dare, perché io voglio entrare in politica. Questa è una brutale realtà. Allora, lo pongo come problema. Questo anello di congiunzione tra l'esistenza della sezione dove convergono esperienze, racconti, quello che sia, di anche soggetti sociali molto diversi, ma poi questo moschettone che va verso la politica, considerando quello che è successo nel mese di maggio, beh, insomma, è veramente un problema molto grande. L'altro, e lo dico soltanto telegraficamente perché il mio tempo credo sia scaduto, è lì davvero sul fatto che il deficit è vita, se naturalmente non è per fare gli armamenti né per fare altre forme di consumo sterile. Il deficit è importante, ma insomma lo Stato fascista nei suoi aspetti tecnici non era una cosa fatta dai gerarchi del partito fascista e tantomeno da Mussolini, come diceva Manlio Rossi Doria, che insomma non posso non ricordare come grande maestro. Renditi conto che molte cose del primo fascismo, anche la bonifica per esempio, e anche gli interventi degli anni 30, l'IRI e così via, erano i frutti dell'Italia liberale. Noi adesso, nel secondo dopoguerra, abbiamo a che fare con i figli del fascismo, dello Stato fascista. È una difficoltà che, insomma, di cui siamo consapevoli, ma che va affrontata. Però davvero credo che, considerando che insomma questa roba dei numeretti e questa roba per cui Keynes non sanno, nessuno sa più chi è, che il deficit non è il male delle nazioni, che la teoria dei giochi è l'unica maniera per studiare i comportamenti umani, che il concetto di cooperazione non è qualche cosa di tecnicamente utile, non è una sottrazione alla razionalità dell'agire e ai suoi risultati. Ecco, su questo si può veramente battere moltissimo, sperando che diventi una forma di attrazione di un pubblico e che però come risolvere il problema dell'attuale cortocircuito tra entrata nel partito e ricerca di carriere ben pagate in partiti pieni di soldi, questo davvero non posso dire, dovrebbe essere al centro appunto delle preoccupazioni. Grazie Esther. Non molto incoraggiante, ma insomma qualche cosa sulla forza delle idee ce la dà. Alessandro Ferrara. Grazie, io comincio con un ringraziamento agli stimoli che vengono da questo bellissimo documento che rimette in moto l'immaginazione politica. E io condivido in pieno la diagnosi, il tempo è poco, siamo l'ora è tarda e stringerò su due o tre punti. Intanto apprezzo uno degli elementi novità è la virata verso questo aspetto della democrazia deliberativa che qui è preso nella versione di Charles Sabel dello sperimentalismo democratico, c'è naturalmente quella di Habermas, di Joshua Cohen, in realtà di Fishkin, di Ackerman, in realtà dal 95, cioè da quasi 20 anni, c'è una fioritura del pensiero democratico in barba a quelli che parlavano del pensiero unico sull'onda del dopo 89, invece c'è una fioritura in cui se solo uno scorre i nomi di democrazia, a parte quella deliberativa, associativa, penso a Hirt, a Patman, democrazia contestatoria, pensa a Pettit, oppure democrazia cosmopolitica, democrazia agonistica, democrazia forte, per non parlare del liberalismo deliberativo, lì c'è una fioritura che finalmente arriva dentro la riflessione politica vera e propria. E io vorrei, condivido anche diciamo il centro dell'analisi, cioè questo connubio perverso di partiti e Stato, anche se forse io esiterei a conferire ai partiti il titolo di bandolo della matassa, che a un certo punto a pagina 8 cioè non so se il bandolo è proprio lì, però certamente c'è un connubio perverso. E io vorrei fare qualche osservazione sulla proposta. Dunque, del partito nuovo si dice come caratteristica che deve essere né un partito di occupazione dello Stato e neanche un partito liquido, un partito di evanescente, ma deve essere un partito palestra che offre lo spazio politico per la mobilitazione cognitiva. Però, allora, non c'è dubbio che questo sia un ottimo intendimento, un ottimo proposito, però la domanda che sorge è se un partito palestra che ha al centro la mobilitazione cognitiva non presupponga anche un luogo dove questa mobilitazione, i risultati di questa mobilitazione cognitiva vengono poi disseminati e fatti valere nella società. Cioè, se non presupponga che esista una sfera pubblica non distorta dove i frutti della mobilitazione cognitiva si fanno vedere. Ora, lì c'è un problema. C'è un problema di trasformazione seconda della sfera pubblica dopo quella già in modo assai famoso, classico, ormai illustrato da Habermas, cioè il passaggio verso i grandi media generalisti che creano delle audience in luogo del pubblico critico. Dopo di questo noi abbiamo un'altra trasformazione nella direzione della rete, dei social media, che in parte ricostituiscono le cerchie, in parte spezzano quei pubblici sterminati di milioni di persone, in parte rimettono in piedi gli opinion leaders localmente, però creano una dinamica diversa da quella del passato e resta un punto da chiarire come il partito nuovo si rapporta a questo aspetto nuovo della sfera pubblica, perché sorge il sospetto che questo aspetto di novità sia stato intercettato, non diciamo meglio, ma più rapidamente, con più rapidità da altri che non dal partito su cui si innesta la proposta del partito nuovo, quindi quello è un punto. Questo però è generale e riguarda tutte le sfere pubbliche dei paesi dei paesi avanzati. Poi c'è un problema specifico italiano, e qui mi ricollego all'intervento che faceva Fabrizio Barca poco fa, di prima, diciamo, di Zwischenbetrachtung, di considerazione intermedia a metà. A metà strada, quando parlava della peculiarità italiana, e questa peculiarità è tutta letta in chiave dell'arcaicità dello Stato e della perversione del rapporto con i partiti, oltre che il blocco ventennale dello sviluppo. Io mi domando se non c'è anche un'altra peculiarità tutta italiana, che è la degenerazione della sfera pubblica, da 10 anni almeno a questa parte, in un mero spazio pubblico. Cioè, il vero successo del ventennio berlusconiano, dal punto di vista, diciamo, del suo protagonista, è lo snervamento della sfera pubblica in uno spazio pubblico. Che cos'è uno spazio pubblico? È essenziale perché ci sia una sfera pubblica che le opinioni che si manifestano siano intese come un darsi ragioni per trovare la cosa migliore da fare. La migliore soluzione. Uno spazio pubblico è uno spazio dove intervengono attori pubblici senza questa finalità. Esempio principe è lo stadio. Lo stadio non è certo un salotto privato, è un luogo pubblicissimo, chiunque, aperto a chiunque. Però lì ci sono opposte tifoserie che si scambiano non ragioni ma insulti. E prevalere nello stadio significa azzerare la voce degli altri, non prevalere in base a ragioni. Ora, il vero fattore inquinante del quasi ventennio, diciamo, da quando Berlusconi è sulla scena politica italiana, è la trasformazione, è la fuoriuscita dello stadio, il tracimare dello stadio nella sfera pubblica. Quando nei talk show, nei comizi, nelle occasioni pubbliche dice che quella è una soluzione, ovvio, dei comunisti, delle sinistre, fa scattare un riflesso condizionato che è come quello dello stadio. Allora la domanda è: il Partito Nuovo come si attrezza per reimmettere elementi di sfera pubblica in quello che è uno spazio pubblico degenerato, in cui, in sostanza, noi possiamo avere le migliori ragioni di questo mondo, però nello spazio pubblico noi otteniamo la stessa accoglienza delle buone ragioni di un laziale nel club romanista, in cui non è quello, diciamo, non è quello il punto. Io sono fuori dal, poteva essere al contrario. E quindi che cosa, come si pone questo problema? Perché se non si, diciamo, non si trova un vaccino contro questo virus berlusconiano che è dilagato, le buone ragioni non fanno presa. La seconda delle cose è che si dice del Partito Nuovo che deve, qui cito proprio da pagina 32, deve poter cogliere la forte domanda di partecipazione e di fare politica che viene da tutti i cittadini. Ora, qui viene il sospetto che se la domanda di fare politica e di partecipazione fosse veramente così forte e i partiti stessero in competizione tra loro per soddisfarla al meglio, noi non saremmo al punto in cui siamo. E in realtà viene sospetto che siamo al culmine di decenni in cui la politica ha ovunque perso l'aura di forma nobile di impegno per il bene comune, l'ha ristretta solo a un livello alto, e c'è una crisi della partecipazione politica e del valore della politica come professione, per un verso, ma anche come forma di attività. C'è un impasse che è più ampia, che è epocale in questo, e che è aumentata dal salire di scala della significatività della politica. C'era un tempo in cui le città-stato producevano politica significativa sul piano mondiale. Poi è venuta l'era degli stati-nazione, con qualche città-stato che è sopravvissuta all'età degli stati nazione, e oggi questo lo vediamo ancora di più nella trasmigrazione verso poteri sovranazionali. Quindi la politica conta di meno, come può entusiasmare di più? E questa è una delle sfide a cui il partito deve in qualche modo rispondere. Un'ultimissima nota e chiudo effettivamente. vorrei spendere una parola organizzativa sul modo in cui un partito nuovo deve chiudere, diminuire, se mi permettete l'espressione, il cuneo temporale, come il cuneo fiscale. Il cuneo temporale che c'è tra l'impegno delle persone e l'effettività politica. Uno dei grandi limiti delle operazioni di rinnovamento, io penso alla stagione dei club della sinistra sommersa di Florence Narcisse del tempo degli anni 90, 91, eccetera. Uno dei limiti di quelle operazioni periodicamente di rilancio dei partiti della sinistra è un enorme cuneo temporale. Io metto un po', se metto tempo, meno del tempo pieno, meno del professionista della politica, è tempo perso. Questo è il più forte deterrente su un piano organizzativo contro la capacità di attrarre la partecipazione delle persone. La sensazione è che se non ti ci butti dalla mattina alla sera e trasformi la tua vita in una missione politica non hai alcun risultato. La rete, altre cose permetteranno questo, però forme di flessibilità in questo senso vorrei capire se sono nella mente di Fabrizio Barca. Grazie. Grazie Alessandro. Il socialismo non mi piace perché mi terrebbe impegnato troppe sere. Ma forse c'è più voglia di impegno di quanto non crediate. Nadia Fusini. Sarò molto molto molto breve. Intanto, se sono venuta qui naturalmente perché questo documento mi ha interessato, devo però con la stessa sincerità dire che non mi piace affatto questo termine che viene usato molto spesso, mobilitazione cognitiva. Lo trovo un gergo tecnico un po' astruso e non capisco se ci si riferisce soltanto alla rete oppure se si parla di conoscenza in modo più complessivo, e non capisco appunto questa mobilitazione cognitiva, non lo sento come uno slogan trascinante. Ecco, l'altra cosa che riflettevo mentre appunto si parlava qua, che io in effetti non sono mai stata iscritta a un partito, e sono stata nei movimenti, non ultimo il movimento delle donne, e non mi pare che questo abbia avuto meno peso politico. Cioè, forse qui bisogna anche ripensare per esempio che cosa è accaduto, no? Nei modi di stare insieme, di cambiare le forme di vita del movimento delle donne, che è stato molto secondo me significativo. Ecco, una cosa su cui però mi sento assolutamente di condividere almeno una parte del percorso è di avere il coraggio di ripensare certi concetti, certe parole, certe immagini, per ripensare, questo sì, ecco, proprio nell'insieme le società in cui viviamo e come viviamo e quali sono i nostri valori di uomini e donne, che cosa è diventata la nostra vita. No? Perché poi questo si tratta, no? No? Ecco, della vita. Allora, io insegno all'università e lì osservo che noi non soltanto non diamo più lavoro ai nostri figli, ma non diamo più niente, ma nel senso anche di cultura, di lingua, di riflessione, eccetera eccetera. Quindi allora la scuola secondo me deve essere al centro, deve essere ripensata, perché non può esistere una società che non alleva e non educa, no? I propri ragazzi, non so. L'altra cosa che secondo me dovrebbe essere al centro è l'ambiente, no? L'attenzione al mondo in cui viviamo, no? Perché non è secondario, perché è la vita di cui si parla, no? Sono in gioco, la politica è questo, sono le forme di vita che si riescono a inventare. Ecco, quindi io penso che, allora, mobilitazione cognitiva, sì, approfondimento di conoscenze, sì, ma soprattutto l'attenzione a fare sì che la vita vita diventi anche, no, sia come dire, i soggetti che vivono in questo paese, in questo mondo, sviluppino al meglio le loro capacità di conoscenza e di scelta e di valori, penso. Grazie. Grazie a Nadia Fusini. Un tema interessante, il rapporto con i movimenti. Ha parlato del movimento femminile, questo, il rapporto del partito con i movimenti potrebbe essere un tema. Chiara Giorgi. Dunque, anch'io ringrazio molto di essere qui e anche a me è piaciuto molto il documento, ricco di numerosissimi spunti. Dirò una cosa che si ricollega fortunatamente all'intervento che mi ha preceduto, però prima di arrivare, diciamo, alla pars construens anche del documento, volevo dire, aggiungere due cose sulla pars destruens, cioè sulla parte giustamente che Barca critica sulla macchina arcaica dello Stato, ricordando un po' le caratteristiche storiche, come giustamente lui fa benissimo, dello Stato italiano, che è uno Stato per sua natura corporativo, che è sempre stato incapace di rendersi autonomo rispetto agli interessi costituiti e indipendente rispetto agli interessi privati. Si è parlato, a partire dall'epoca di Giolitti, di uno Stato neofeudale, di uno Stato sindacale. Nel secondo dopoguerra si è continuata questa vestizione di interessi privati con panni pubblici e via dicendo. E appunto la natura corporativa dell'organizzazione statale nazionale chiaramente ha facilitato la presenza di clientele e padronati, rendendo l'organizzazione dello Stato inefficace, incapace, anche difficile da razionalizzare, incapace di rispettare l'eguaglianza, il merito e l'imparzialità. A proposito di questo, diciamo, noi siamo effettivamente di fronte ad una crisi, e questo mi ha ricordato un po' una cosa che scriveva tanti anni fa Antonio Gramsci, quando parlava di una regressione alla fase economico-corporativa di fronte a una crisi di civiltà. Una crisi organica alla quale noi assistiamo, in cui appunto la politica si miserisce sempre più a un puro rapporto di forza, cessa di essere il luogo di reciproco riconoscimento, di interazioni tra volontà diverse, di contaminazione tra bisogni e aspettative, di solidarietà tra forze, di elaborazione di intenti comuni, di trasformazione dell'esistente, smarrendo l'ispirazione etica, quella che era cara non solo a Gramsci, ma soprattutto, lo amo ricordare, a Lelio Basso. Ecco, e proprio in questa crisi che cosa accade? In questa crisi organica della stessa società borghese, spesso ciò che accade è una rottura della legalità e l'infamoso intervento del capo carismatico. Oggi chiaramente noi non abbiamo Mussolini, ma abbiamo il pericolo di questa rottura della legalità costituzionale, e lo abbiamo veramente a partire da ieri, da quello che è successo, e appunto un rischio molto forte rispetto a questo. Però io sono ottimista, la pars construens, sono ottimista, perché io credo che accanto chiaramente a quello che rimane a tutt'oggi ancora l'unico strumento in grado di fare, come dire, da tramite, da mediazione, da interfaccia, scrive giustamente Fabrizio Barca, tra quelli che Basso chiamava governati, e non era solo lui naturalmente, governati e governanti, io credo che sia il caso di riflettere ancora e di puntare sulla soggettività. Sulle soggettività, credo che questo sia un problema molto importante, ricercare veramente, valorizzare tutti quegli aspetti della cittadinanza attiva e militante rispetto a tante cause, anche spesso diverse, che chiaramente poi devono trovare un filo comune, valorizzando i movimenti di emancipazione, di liberazione, come è stato certamente e com'è il femminismo, individuando quei soggetti storici reali, concreti, ieri si parlava alla presentazione degli scritti di Rodotà, persone, i quali appunto possono dare sostegno alla Costituzione, possono garantire una prospettiva costituzionalmente prescrittiva e non soltanto descrittiva. Io credo che sia il caso, dall'altra parte, di valorizzare una serie di esperienze che vi assicuro ci sono, fiorite dal basso, il che senza abbandonare il pubblico, chiaramente, ma esperienze che nascono sulla base di istanze reali di partecipazione da parte di persone concrete. Io credo che questo sia da contrapporre alla rivoluzione dall'alto che viene operata quotidianamente, che è in atto da parte del capitalismo. Questa è la sfida che noi abbiamo di fronte. Tempo fa è stato ricordato, noi siamo in un momento difficile perché, come dire, il vecchio non è più in grado di governare e stenta, e lo fa appunto mettendo in campo una serie di strumenti anche di eccezione, e il nuovo fa fatica, come dire, a palesarsi. Questo chiaramente è Marx, però è questa la sfida che noi dobbiamo cogliere, ed è una sfida difficile che ci comporta anche uno sforzo, io credo, di invenzione, di immaginazione. Si stanno creando alleanze anche inedite e produttive tra giuristi e appunto pezzi di politica, di movimento, e io credo appunto che è necessario guardare anche ad altri contesti, diciamo, per riannodare, per ricaptare queste forme di soggettività plurale. Altri contesti che di solito sono quelli del sud del mondo, in cui si è preso a ritessere questo filo dei diritti, forme di sperimentalismo democratico, così come si ripongono in primo piano le famose lotte, dico famose, per i beni comuni, riaprendo una serie di canali di comunicazione tra cittadini e istituzioni, anche diversificando gli strumenti della partecipazione, anche diversificandoli. Ecco, io credo che questo sia un po', ripeto, una sfida importante, ma all'ordine del giorno, che richiede, come dire, molto incanto, direbbe Giacomo, che richiede molta immaginazione, molta invenzione. E chiudo con una domanda. Io vorrei chiedere a Fabrizio Barca qualcosa di soffermarsi un po' di più. Lui giustamente ricorda il dibattito all'Assemblea Costituente sull'articolo 67, tra l'altro, parentesi, molte cose che lui mette in evidenza del Partito Nuovo a me francamente hanno ricordato il Partito Nuovo che Lelio Basso ha tentato e in parte ha ricostruito poi dopo tutto quello che è successo tra il 45 e il 46, molte di quelle caratteristiche, anche nel nesso tra partecipazione e tecnica, tra competenza e democrazia, ci sono molte cose che echeggiano quello e magari Basso si ridesta, però io lo penso. E la domanda che vorrei fare riguarda la libertà di mandato o anche appunto il vincolo di mandato imperativo, perché lui giustamente ricorda tutto un dibattito, la diatriba fra Mortati, Griego, eccetera eccetera. Ecco, forse però su quello io sono, come dire, a favore della libertà di mandato, visto anche come le ultime vicende grilline un po' ci hanno così, però ecco, vorrei sottoporre. Grazie Chiara. Franco Marcoaldi. Allora, rapidissimo e quindi inevitabilmente un po' apodittico, anch'io torno sull'aspetto linguistico della questione. Negli ultimi 20 anni nel discorso pubblico chiaramente e ai noi si sono imposte le forme populiste di emotività fegatosa nel discorso pubblico, nelle diverse forme del leghismo, del berlusconismo e del grillismo. A fronte di tutto questo, l'inerzia un po' sfibrata, sempre più sfibrata, del Partito Democratico. Da questo punto di vista io penso che il documento di Barca rappresenti un significativo salto in avanti. Ciò detto, confesso a mia volta di avere qualche perplessità, non tanto rispetto al documento, ma rispetto alla sua valenza pubblica successiva della formulazione, che invece concettualmente mi convince e molto, della mobilitazione cognitiva. Per essere più bruschi e più espliciti, non credo che se mettessimo fuori da Via dei Giubbonari, questo è il luogo della mobilitazione cognitiva, eserciterebbe un grandissimo appeal nei confronti dei ragazzi del consenso. Ah sì? No, che c'entra? Quella sera sono venuto anch'io a sentirlo. Io credo, non lo so, mi sbaglierò e me li auguro di sbagliarmi, ma che diciamo che questa formulazione in sé possa esercitare appeal sui ragazzi delle nuove generazioni, va bene, può essere che io mi sbaglio. Dal mio punto di vista non lo esercita, mentre invece mi convince, invece, e molto, il ragionamento che sta dietro. e vorrei concludere dimostrando con un'esperienza molto concreta come il Partito Democratico sin qui vada esattamente nella direzione opposta. Penso che appunto sia un problema di lingua, appunto, essenzialmente. Prima mi ha molto colpito anche l'onestà con cui tu hai riferito, dice, se i dirigenti del Partito Democratico chiudessero gli occhi e pensassero a quella è l'Italia tra 15 anni, ci sarebbe una bella nebbia, una discreta nebbia. Ora, io ho letto di recente un libro piuttosto bello, un'antologia di scritti di John Berger, o Berger che sia, contro i nuovi tiranni, e a un certo punto si fa riferimento alla parola riparare, una parola che ha svariati significati, proteggere, aggiustare, risarcire, difendere, rimediare, sanare. Questa parola, ad esempio, io non è che la sposo, diciamo, sic et simpliciter, però già immediatamente mi fa pensare anche a un universo molto presente in Italia, rispetto al quale il Partito Democratico ha dimostrato una totale disattenzione, segnatamente, perché poi è una parola che va esattamente contro alla logica del consumo e della rapina che si è imposta negli ultimi 20 anni, che è ad esempio quella del movimento referendario sui beni pubblici. Io penso che il totale silenzio del Partito Democratico nel corso della campagna elettorale rispetto a quella battaglia, peraltro vinta, sia stata una delle ragioni della sconfitta del Partito Democratico medesimo. Concludo con la mia esperienza concreta rispetto alla non applicazione di questa mobilitazione cognitiva. Allora, io vivo ad Orbetello, e quindi nella regione toscana. La regione toscana si fa vanto di avere una disposizione di legge di democrazia partecipata. Bene, è in atto un assoluto scempio dal mio punto di vista, che ripropone l'altra grande questione totalmente rimossa dal Partito Democratico, che è la questione ambientale e che è la questione più in generale della preservazione, diciamo, dello straordinario tesoro italiano, e che viene regolarmente vista come una battaglia, come dire, un po' dendistica, ecco. Bene, lo scempio in atto è quello che riguarda l'autostrada tirrenica. Allora, cosa fa la Regione Toscana? Chiede l'opinione del Comune di Orbetello, che è quello immediatamente riguardato da questa tratta. Comune di Orbetello a maggioranza centro-sinistra. Il Comune di Orbetello dice no alla proposta che la SAT fa. Chiede l'opinione alla provincia di Grosseto, maggioranza centro-sinistra. La provincia di Grosseto dice no. E che cosa fa la Regione Toscana? Dice sì. Questa è la dimostrazione palmare di come viene applicata la mobilitazione cognitiva all'interno del Partito Democratico. Da qui anche delle perplessità legittime in una persona come me, che è iscritta alla FIGC da quando aveva 14 anni e poi al PC e continua a votare le successive trasformazioni, perché comunque è il partito. Ma attenzione, ecco, perché a un certo punto anche questo voto inerziale finisce per poter cedere, altra questione su cui all'interno del Partito Democratico non si ragiona a sufficienza. Grazie. Grazie Marco Albi. Scusate un attimo. Io mi scuso con tutti voi perché non tutti riusciranno a parlare prima delle conclusioni di Barca, perché deve allontanarsi alle 6. Prometto a tutti che coloro che vorranno parlare avranno la parola anche dopo, anche perché vale la pena di continuare comunque a discutere, indipendentemente dalla occasione che ci è offerta di poter... Ne mancano 1, 2, 3, 4, 5 e si sono iscritti altri 3. Quindi io do la parola adesso a Silvana Andriani, perché Giancarlo Monina ha rinunziato e cedi sui 5 minuti a Silvana Andriani. Poi darò la parola a Barca e poi tutti gli altri avranno possibilità di interloquire. Io non ripeterò, sì, cose già dette. Vabbè, dopo... Anche così, dopo i chiarimenti già dati da Fabrizio, faccio due considerazioni. Io spero davvero che questo approccio e l'altro che sta emergendo, che a mio avviso rappresenta la visione opposta, cioè il semipresidenzialista, siano l'oggetto del prossimo congresso del Partito Democratico, perché sono due visioni diverse, opposte. Io credo che sia un merito di Walter Veltroni di averla posta chiaramente sul tappeto, in modo coerente, perché dal partito leggero si arriva adesso alla Repubblica semipresidenziale. Secondo me c'è un percorso coerente e non credo proprio che sia l'unico a pensarla così nel Partito Democratico, anche se altri non lo dicono, magari dicono il contrario. Perché anche l'obiezione di Violante, ma adesso non si può fare perché c'è Berlusconi, ha il suo peso, me ne rendo conto, però non risolve il problema e lascia intendere che in fondo anche lui sarebbe d'accordo. Quindi penso che davvero sarebbe bene che questo fosse, perché sono davvero le due visioni opposte. Dopodiché la mia osservazione è la seguente. Tu dici giustamente esiste una crisi dei partiti a livello europeo e poi ce n'è una specifica italiana. Ormai questo è uno schema che vale per tutto, per l'Italia da sempre. Penso che sia comunque necessario conoscere meglio la situazione degli altri paesi europei. Per esempio, perché il semipresidenzialismo esiste solo in Francia? La risposta di Barbara Spinelli sulla Repubblica, perché c'è la guerra d'Algeria, lo shock, la Quarta Repubblica, eccetera, eccetera, dice una verità, ma no, non mi conviene, perché dopo 60 anni quel modello continua a esistere e nonostante tutte le critiche continua a funzionare. Io penso che il problema vero è che in Francia non c'è mai stato un partito di massa. Il meccanismo attraverso il quale si forma e si seleziona la classe dirigente francese, attraverso le grandi scuole, è un meccanismo che non esiste da nessun'altra parte. I partiti sono sempre stati debolissimi e alla fine hanno trovato quel meccanismo per trovare la sintesi. In Inghilterra è tutto un altro modello, quindi bisogna rendersi conto. Allora, il partito di massa non è nato in Italia. Il prototipo del partito di massa è sempre stato il Partito Socialdemocratico Tedesco, era quello, diciamo, che era oggetto delle analisi già negli anni 20 della sociologia politica, ed è stato anche in Germania che è cominciato il dibattito sulla crisi del partito di massa. Già questo non ricordo male perché cito a memoria il famoso dibattito fra Duverger e Kirchheimer. Duverger si lamentava che in Francia non esisteva partito di massa e voleva che si fosse. E Kirchheimer? Sì. E Kirchheimer gli elencò quelli che secondo lui sarebbero stati i fattori che avrebbero creato una crisi dei partiti di massa: la crescente complessità delle società, il peso crescente dei mass media nella comunicazione politica, eccetera, eccetera. Allora, però, a 40-50 anni di distanza da allora, il sistema politico tedesco è rimasto quello che è e continua a funzionare. Allora, qualcosa è successo, bisogna capire cos'è che è successo. Allora, concludo. Verso la fine degli anni Ottanta, prima della caduta del muro, quando il Partito Comunista ristabilì i rapporti con la socialdemocrazia tedesca, alcuni di noi, che eravamo nei centri studi del Partito Comunista, andammo a fare un confronto con la Fondazione Herbert per vedere la struttura dei due partiti. Quando noi chiedemmo a quelli della Fondazione Herbert quanti erano loro nella Fondazione, ci dissero 500. E noi c'era da vergognarsi, perché noi in tutti e quattro i centri eravamo 40. No? No, allora, e non solo, ma il finanziamento pubblico dei partiti era stato orientato sulle fondazioni. Era chiaro che erano due modelli di partito completamente diversi. Il Partito Comunista aveva 3.000 funzionari e 40 nei centri studi. Loro avevano 500 nel centro studi e 600 funzionari. Erano due partiti, modelli diversi, e quel partito non era più il modello che Michels aveva analizzato negli anni 20. Quindi c'era già stata una riforma del partito di massa. Ed era un partito di massa perché aveva ancora 1 milione di iscritti prima dell'unificazione della Germania, con una popolazione uguale a quella italiana. Quindi io penso, è chiaro che loro avevano trovato un framework attraverso il quale elaboravano la visione generale del partito, le policy e la formazione continua dei quadri, funzionari e non. Quindi il processo cognitivo in qualche modo l'avevano organizzato. Ora, probabilmente quello non è un modello che si può portare in Italia, probabilmente loro stessi l'avranno cambiato, io poi non l'ho più studiata la cosa, però penso, fermo restando che è chiaro che il testo di Fabrizio è ben consapevole di tutti i dibattiti sulla crisi dei partiti di massa, delle nuove teorie della decisione a partire da razionalità limitata, razionalità processuale, eccetera, eccetera, di tutta la teoria, la conoscenza, l'economia, tutto questo, però poi diciamo bisogna conoscere diverse specificità e sapere cosa si può adattare all'Italia e cosa no. Grazie Andriani. Katia Papa. Allora, sì, io sarò brevissima, però ci tenevo a parlare perché volevo sottolineare un punto del testo di Barca che non è uscito abbastanza e che per me invece è fondamentale e che sarebbe appunto Papa, Katia Papa, sì, e che per me è fondamentale perché io non sono un'elettrice del PD. E guardo al PD da sempre, diciamo, come un possibile interlocutore da sinistra. Il punto appunto del documento che mi interessava molto è questa idea di un partito aperto, che credo che sia necessario, appunto, sul quale credo sia necessario ripuntare l'attenzione, perché non credo che sia possibile immaginare un partito forte nel senso anche di autosufficiente, no? Ormai questa è una cosa che deve essere abbandonata completamente. E credo che l'Italia di oggi sia anche meno, insomma, meno misera di come a volte la immaginiamo. Quello che Elena Paciotti diceva prima, l'Italia di oggi è anche l'Italia in cui diciamo che quella che conosco io è un'Italia che nel trentennio liberista ha anche però vissuto grandi movimenti, importanti movimenti. Veniva citato il movimento femminista, ma il movimento ambientalista e poi quello che ha fatto, a mio parere, che veniva appunto citato adesso, l'unica cosa veramente di sinistra in questo paese negli ultimi anni, cioè la vittoria del referendum. E guardate che il movimento dell'acqua è esattamente il tipo, io leggevo le pagine di Barca e pensavo, ma questo è il per certi versi è un modello vissuto dal Movimento per l'Acqua, che è una rete che, come dire, di circoli e di comitati, di associazioni territoriali e di associazioni nazionali che hanno messo insieme anche grandissime differenze in modo conflittuale e che sono riuscite, confliggendo ma con delle regole, a produrre un processo amplissimo. Insomma, quello che è successo con il referendum è incredibile, cioè 1.400.000 persone che vanno a votare, non so se che sottoscrivono. Sì, che sottoscrivono, cioè è un livello di partecipazione impressionante, no? Quindi che appunto tra l'altro chiama in causa strettamente il discorso che stiamo facendo oggi, perché mentre, come veniva ricordato, la dirigenza del PD ha tenuto un atteggiamento ondivago e incomprensibile, proponendo leggi che poi venivano, cioè 10 giorni, poi venivano, diceva che le ritirava, poi le ripresentava, poi non si capiva che doveva fare, i circoli del PD, molti circoli del PD sul territorio hanno invece contribuito fortemente alla costruzione del movimento. E questo anche per venire a come si fa, no? Che era una domanda che veniva posta all'inizio. Certo non si fa appunto con una strategia a tavolino, insomma, no? Cioè non si fa cominciando con l'ammettere che la politica oggi in Italia non è un deserto e che bisogna rivolgersi a quelle culture politiche, a quei movimenti che stanno sedimentando non solo saperi ma pratiche, no? Negli ultimi anni, che questa, il rapporto con i movimenti è un rapporto che non può continuare a essere l'eluso e neanche, diciamo, risolto con la dicotomia, no? Il partito che mira al governo e il movimento che mira all'attacco alle istituzioni. Questo è un infantilismo che vale per i movimenti, ma vale anche per i partiti, no? Perché i movimenti non sono solo questo, men che meno i movimenti attuali. Quindi assolutamente il problema va posto. Io devo dire, l'unica cosa che mi ha un po' perplessa leggendo, cioè, devo dire, ce ne sono altre, però quella che mi ha perplessa di più leggendo questo documento è stato trovare i movimenti e le reti sociali nei corpi intermedi, secondo uno schema assai vecchio, ecco, di interpretazione, per cui non mi sono sentita molto rappresentata come corpo intermedio, insomma, ho detto no, cioè una visione in qualche modo che, no, che invito a ripensare, ecco, dei movimenti, no? e delle reti sociali. Dicevo appunto, per tornare al che fare, credo che bisogna guardare a queste realtà e credo che bisogna all'interno del PD valorizzare quello che appunto al di là degli apparati, insomma, dirigenti, poi in realtà nel corpo del partito c'è, con tutte le contraddizioni. E concludo con una battuta. Per me il PD non è un partito di sinistra, è per quello che non lo voto, ma nel senso che la sua dirigenza per me non è un PD, che c'è una scissione tra la dirigenza del PD e il corpo del PD, che continua invece ad essere, diciamo, genericamente di sinistra, poi anche lì bisognerà parlarne, però insomma, allora c'è bisogno appunto in qualche modo anche di sciogliere questa ambiguità, che è un'ambiguità, e veramente su questo concludo. Gli ultimi punti, a me va benissimo richiamarmi ai dettami della Costituzione, ci mancherebbe, però io ho bisogno di andare oltre, cioè nel senso non si tratta soltanto di tutela del territorio, ma si tratta di nuovo modello di sviluppo, si tratta appunto di, come dire, c'è stato una, c'è bisogno anche di riaggiornare in qualche modo, no? Quello è un linguaggio, un patto fondativo che mi va benissimo, però per definire un partito di sinistra secondo me bisogna adesso fare, non basta semplicemente riagganciarsi alla Costituzione. E, non mi ricordo se volevo dire qualcos'altro, però smetto perché so che è tardi. Brava Katia. La parola a Fabrizio Barca e poi chi vuole può rimanere a discutere. Sì, lo so. Allora, mi dispiace di lasciare appena ho finito, ma c'è l'elezione, c'è l'ultima manifestazione della campagna elettorale per il primo municipio e quindi vado lì un'ora. E avevo promesso che sarei stato lì alle 7:10, vengono a prendere il motorino qua fuori, non posso mancare. Quattro osservazioni e una risposta alla domanda quali sono i primi passi. Le quattro osservazioni sono le seguenti. Prima osservazione riguarda le tre cose che sono legatissime: la disponibilità a fare politica è alta, ce lo dicono i numeri, l'associazionismo è estremamente diffuso, è uno degli elementi di novità, il concetto di partito aperto non autosufficiente, sono tre cose legate, estremamente importanti nell'impianto che io suggerisco. Il fatto che sia nei corpi intermedi è perché lo sono, poi che sono un corpo intermedio nuovo. Corpo intermedio vuol dire che si vengono a trovare in modo intermedio fra la società e lo Stato. Sono una modalità moderna di esserlo. D'altro canto alcuni corpi intermedi tradizionali, come la CGIL nella sua articolazione SPI, è assolutamente paragonabile come organizzazione, come impegno a quello delle associazioni. La SPI-CGIL rappresenta l'unica grande organizzazione che esiste in Italia di presidio delle famiglie, ha un ruolo orizzontale che prescinde anche addirittura solo dalla questione degli anziani, quindi se è un corpo intermedio della CGL lo sono anche le associazioni per i beni comuni. Oppure non lo sono nessuna delle due, li chiamiamo in un altro modo, li chiamiamo Giovanni. Io sono estremamente d'accordo con quello che viene detto e ritengo che nel partito queste associazioni debbano avere due distinti ruoli. Primo, il partito dovrebbe prevedere senza pretendere che lo facciano, la iscrizione di associazioni, come prevedono altri partiti di sinistra in giro per il mondo, che consentirebbe ad alcune associazioni di loro branche locali o nazionali di iscriversi, lo so che non era quello a cui si faceva riferimento, ma questo è un elemento importante, perché se un'associazione si iscrive al Partito Democratico c'entra in modo molto diverso da come c'entra un singolo associato, ma non è questo il modo principale. Il modo principale che io vedo è legato alla capacità del Partito Democratico di dire: io non ricostruisco un nuovo collateralismo, non ti cerco per candidare, come terribilmente a Roma è stato fatto, una persona nera che viene da fuori, a cui viene proposto il voto soltanto perché stia nelle liste del PD a Roma per il Comune, che giustamente lo rifiuta. O di qualunque altra, quindi non ti collateralizzo e non ti chiamo perché rappresenti qualcuno. Io penso che tu abbia delle conoscenze, cioè che tu abbia delle conoscenze fondamentali che tu hai sviluppato nella tua unilateralità, perché molte situazioni concernono un solo profilo della vita umana, un solo profilo d'organizzazione, che io porto dentro. Però io ti devo convincere che è utile che tu venga. Perché tu devi venire? Cosa c'hai in più rispetto a quello che fai associandoti? Tu sai che io faccio due operazioni che non avvengono dentro di te, cioè io ti faccio litigare con altri che non hanno la unilateralità che tu hai per tua natura, cioè ti porto, se sei un'associazione che difende le donne o che lavora sulle donne, ti faccio litigare con alcuni bei maschi del mio partito e le mie donne del mio partito, e all'interno di questo determino un utile conflitto. Se poi passa, io ti devo garantire qualcosa di più, cioè che quello, come mi è stato detto in moltissimi circoli che fanno operazioni di questo tipo, che le idee che maturano nel circolo non rimangano lì, perché io non sono solo un pensatoio, io sono un luogo dove tale che le idee che maturano dentro di me io le porto all'attenzione della politica locale, degli eletti locali, degli eletti regionali o degli eletti nazionali. Quindi io divento appetibile e interessante. Questa appetibilità da cosa deriva? Dalla insufficienza dell'associazionismo, che vi dico soltanto sei titoli. Noi abbiamo situazioni di regressione nella realizzazione della legge sull'aborto che sono drammatiche. Il fatto che questo ci segnala che evidentemente pur un associazionismo di notevole livello e capacità non riesce a impedire che oggi a molte donne sia negato di fatto il diritto all'aborto, o comunque che adesso si possa frapporre, come mi veniva segnalato non più tardi di oggi, soltanto l'intelligenza di alcuni ospedali, ma non di altri, ad esempio non in Lombardia, nei quali si sono create delle facilitazioni pomeridiane ai medici che lo fanno, e guarda caso un medico che ha dichiarato di essere obiettore decide di non esserlo più. Quindi questo segnala che la questione dell'effettiva attuazione di una norma corretta ci ricorda che quello che conta sono l'attuazione delle norme e non le norme, e ci ricorda che se non a un certo punto quella mobilitazione non transita in un partito non arriva, ma ve ne cito infinite altre. Pensate a tutta la vicenda della TAV, dove il Partito Democratico è stato totalmente chiuso, in questo caso non quello locale ma quello nazionale, alle sollecitazioni che venivano pur dal suo stesso Partito Democratico, e ha impedito a delle idee corrette, appropriate, sia di grandi esperti sia dei cittadini, di rivedere non già la decisione di congiungere Torino e Lione con una modalità più appropriata, ma di farlo in quel modo. Quel modo è il tipico esempio di deriva tecnocratica in cui, sollecitati da alcuni rappresentanti del PD di quel territorio, il PD nazionale ha rifiutato il dialogo e ha fatto infilare l'intero Stato nazionale, perché bastava che il PD si opponesse, in una roba sbagliata che probabilmente non verrà mai realizzata. Pensate alla vicenda aquilana, che ho vissuto in prima persona, un caso di ademocrazia in cui poi a un certo punto lo Stato arriva sotto la forma del governo Monti e decide di cambiare la modalità di lavoro. E chi trova sul territorio? Trova delle associazioni interessanti che non riescono, salvo una geniale che si è candidata alle elezioni ed è entrata nel Consiglio Comunale, dimostrando che anche quando un'associazione rischia di candidarsi, pur piccola, quella piccola associazione si chiama Appello per l'Aquila, che è all'opposizione del PD, che non esiste dal punto di vista di partito in quel territorio, esiste nella figura nobile, importante, ma al tempo stesso stressata, solitaria del suo sindaco, che fa il mestiere che deve fare nelle sue modalità, è costretto fino a quando leggete sul giornale che quello si deve arrivare a levarsi la fascia, cosa avvertite? Che non c'è più la politica. e la politica in quel luogo non è il PD che è frastagliato in correnti, in robe che non sono neanche raccontabili, ma c'è questo piccolo partito che si chiama Appello per l'Aquila, che porta la modernità di un'associazione giovanile che pretende semplicemente l'informazione. L'unica interfaccia che io ho trovato in un anno di lavoro, in cui noi davamo informazione, cercavamo di introdurre un nuovo metodo democratico, quello è il Fatto Quotidiano, che mi ha organizzato per attaccarmi, ma in realtà dandomi una mano straordinaria, delle assemblee in piazza, costringendomi ad andare in piazza, dove io ho fatto il demagogo, perché poi quando non hai intermediazione e un ministro diventa uno che racconta delle leggi in piazza, lo puoi fare una volta per creare, per ricostituire degli elementi di democrazia, ma quello che stava avvenendo non era una cosa che riproporrei, perché un ministro che va a raccontare in piazza la legge prima di averla portata in Consiglio dei Ministri non è esattamente, come dire, il modello di democrazia che credo abbiamo in testa. Ad Acerra, la stessa vicenda europea, perfino oso dire, perché diciamo uno deve sempre andare contropelo, non segnava il vecchio Partito Comunista, cioè se vai in un luogo di operai dici delle cose a favore degli imprenditori, non come invece è iniziato da una ventina d'anni che si va di pelo. Perfino i movimenti per l'acqua, che hanno determinato un cambiamento nei fatti, quando poi andiamo a vedere come l'acqua viene servita a Napoli, dove io conosco Lucarelli, ho visto fino a che è rimasto là, cioè noi non è stato portato a casa niente, perché è stata mitizzata, alcuni metodi di produzione dei beni comuni sono stati mitizzati. In realtà, poiché io faccio questo mestiere, faccio il mestiere di analisi delle governance e degli assetti di produzione, quando sono andato a farmelo raccontare, quella era una public company, perché? Perché la complessità della, quando la complessità della produzione di un bene è molto elevata, tale che quindi i soggetti non hanno le competenze e la capacità di verificare se le modalità di produzione, di approvvigionamento e di erogazione sono effettivamente nell'interesse di ogni singolo e generale, tu hai bisogno di un manager, e nell'istante in cui hai un manager è una cosa che si chiama public company, che esiste nel capitalismo, hai una forma capitalistica di produzione, chiamatela come volete, quindi evitiamo anche in alcuni casi. E quindi che cosa vuol dire? Che si è fatto male? No, si è fatto benissimo, perché il processo di privatizzazione stava provocando una devastazione. Ma il fatto di non è do e dopo, e le modalità con cui l'acqua è erogata in Sicilia, chi la presidia? Dove sta la politica? Dove stanno i partiti? E dove ce la fanno le associazioni? Non ce la fanno le associazioni a stare dietro a quel Moloch che è la modalità effettiva. E chi ha prevenuto a Latina che venissero fatte le devastazioni che sono fatte da Acqua Latina, che era un'organizzazione, eppure quella, come dire, sono enti formalmente pubblici, che rispettano la legge in base ai risultati del referendum. Quindi straordinario potenziale, sì, grande capacità innovativa anche nel metodo, ecco il punto, il metodo, perché c'è anche un profilo di metodo, perché quelle associazioni praticano metodi nuovi, cioè sono le non alla 5 Stelle, anche se dentro al Movimento 5 Stelle ci sono frammenti di quell'associazionismo che hanno portato dentro, come ci stanno frammenti di quei pezzi di Val di Susa a cui noi abbiamo sbattuto, noi, visto che sono iscritto al PD, sbattuto la porta in faccia. Ma ci sta anche una non capacità del PD, non capacità del PD di usare i nuovi metodi. Quando io scherzando dico, ma insomma usiamoli, la capacità della sinistra un tempo era di usare le armi del nemico, una delle armi del liberismo, della ipercontrattualizzazione, iperrazionalista, è stata la invenzione di monitoraggio, valutazione di impatto, indicatori, che venivano usati in quell'apparato in una maniera impropria, perché venivano usati nella presunzione che consentissero di verificare la perfetta produzione delle ferrovie o addirittura della guerra commissionata a privati. Ma che non vuol dire che non... Però ci hanno esplorato la modernità, prendiamoceli tutti, usiamo la valutazione, usiamo gli invalsi, sì, usiamo gli invalsi e la valutazione, non immaginando alla Blair che si possa sulla base di una valutazione fatta a livello nazionale chiudere delle scuole perché nasce la concorrenza sul mercato, perché ha portato il peggioramento drammatico della qualità dell'istruzione in quel paese che andava bene. Ma perché lo scontro in una scuola tra un ispettore ripristinato che arriva con la borsa dei risultati invalsi e l'autovalutazione maturata in una scuola, e ce lo mostrano i casi come quello di Trento, che è molto avanti e che usa questo, è la modernità, cioè è la non rinunzia alla conoscenza esterna del valutatore, la non chiusura comunitaristica, iperlocalistica, ed è l'apertura. Quindi il nuovo metodo del partito non lo ha intercettato, lo può intercettare in un modo moderno, dentro a un modello di democrazia deliberativa. Delle cose... sulla Costituzione, prima di dire due battute su e quindi i primi passi, evitare di poi tanto, diciamo così, forse è bene che non vada, che magari faccio perdere con la mobilitazione cognitiva e catoblepa, faccio anche perdere il candidato della prima municipalità, che mi sembra invece ben messa, avendo portato a casa il 47%, se perde è colpa mia, evidente, quindi è meglio che rimanga qua. Due, una cosa sulla Costituzione, lì proprio forse la cosa che è stata detta che mi ha, l'unica che mi è dispiaciuta, perché vuol dire che non mi sono fatto capire io, non perché è evidente che non mi posso, perché se mi fossi fatto capire, cioè quel testo non è solo un testo straordinario, scritto in una lingua, in un linguaggio straordinario, non solo incorpora il meglio della cultura italiana, no, della cultura europea, perché incorpora il meglio del liberalismo, il meglio del socialcomunismo, il meglio del cristianesimo sociale o cattolicesimo democratico, che dir si voglia, visto che erano due correnti importanti della Democrazia Cristiana. Ma è nella Altarino, suicidio, quindi è lì che devo evidentemente non essere stato chiaro, nel tentativo che faccio nell'addendum di usare molti virgolettati della Costituzione, tento di dire usiamola questa Costituzione, perché non c'è Stato che riesca ad andare avanti fino a che ci sono le nazioni, quella è la nostra Costituzione, poi a un certo punto quando avremo trasferito la sovranità italiana a quella europea ci diluiremo nell'Europa e ci avremo messo dei pezzi. Oggi la nostra... rileggere in quei principi sulle opportunità, sulla sovranità, sulla limitazione di sovranità, sul lavoro, sono di una parte che sono di una straordinaria e incredibile modernità, ma non vanno messi sull'altarino, io li leggo ad arte, perché vanno lette come fa il meglio dello storicismo costituzionalista americano, cioè io li leggo ed ovviamente sto mettendoci dentro me stesso, ci sto mettendo dentro il mio pensiero, ma vivere attraverso la Costituzione e litigare e scontrarsi con una destra domani, che pure non può non condividerla, scontrarsi con la destra sulla Costituzione, perché la declinazione delle opportunità che loro non possono negare è diversa, perché è fondamentale, perché è la ricostruzione di un linguaggio comune che consente un telaio altissimo a quello che noi facciamo. Non riesco a immaginarla, quello che c'è scritto sulla cultura, le due righe sulla cultura, possono essere il rilancio di un paese che non ha mai saputo darsi... è indispensabile, no, ma è uno spreco fenomenale non farlo. Ed è un cimento avere, come io ho potuto dire prima, se il Partito Democratico domani dicesse la battaglia europea, la facesse dicendo stiamo rischiando di violare l'articolo della Costituzione, l'11, quello sulla sovranità, sul rifiuto della guerra, l'11, e la sovranità, perché in realtà quello l'abbiamo potuto fare solo in nome del miglioramento della giustizia, dà un livello politico di sentimenti, di emozione talmente forte che chiedo, non dobbiamo rinunciarci. Abbasso il tono, quali i primi passi? Ne vedo... 4, dico meglio quello che avevo detto male prima. Allora, vedo un livello normativo, sì, vedo assolutamente un livello normativo, cioè una roba nella quale un Piero Ignazzi, un Ferraioli mettessero sul tavolo con punti di vista diversi la necessità di intervenire con una norma che riguardi in qualche modo, comunque in attuazione del 49, condizionatamente al finanziamento pubblico, già stiamo su un'altra luna rispetto alla qualità della norma, ad esempio sul finanziamento pubblico che è stata proposta, quindi secondo me questo è un terreno su cui cimentarsi domani mattina, poi si discute, ma non dicendo non si può fare, perché questo io non l'ho detto, io ho detto a me sembra che ho posto un problema di capacità cognitiva nostra di costruirla, ma discutiamone, magari invece ci si convince, ma discuterne già sarebbe un salto straordinario. Secondo, il congresso del PD, perché è un primo passo, qua ci potrebbero dire meglio altri. Credo, e qui guardo Walter che ne sa molto più di me, Walter Tocci, intanto si può provare a usare, Walter, punto interrogativo, la proposta pur da te non accolta, perché della proposta di Epifani, cioè perché evidentemente quella cosa che ha proposto Epifani di avere una prima delle mozioni, una delle tesi, può diventare una pappa indecifrabile nella quale per poter scrivere una roba che va bene a tutti si è perso tempo, oppure potrebbe diventare la discussione su due questioni, come è stato detto, chi l'ha proposto, Andriani, ad esempio una delle due questioni può essere discutiamo, ma non della riforma istituzionale, ma discutiamo di perché in Italia non sono efficaci le decisioni pubbliche da 20 anni. Alcuni diranno perché le istituzioni non sono sufficientemente accentrate e allora noi avremmo altri hanno la possibilità di dire no perché c'è un problema con lo Stato. Quindi già una discussione di questo tipo è un'alzata di palla che può aprire un dibattito. Il secondo tema non può non essere sulla situazione sociale. Quindi... Esatto, no, è così, l'hai detta così, perché a questo punto se domani invece di arrivare a un assurdo referendum pensando che qualcuno sia costretto a dire sì o no al Senato, al Bundesrat, o sì o no al coso, si apre una discussione, beh è un'occasione interessante, vuol dire 3 mesi non persi ma di discussione. Quindi secondo me se tu pensi se quello che tu hai proposto quindi secondo me questa tua cosa è la prima cosa da fare subito, perché vuol dire anticipare i tempi. Secondo luogo, una battaglia nella quale persone di buona volontà si ritrovino a condividere che chiunque sia il prossimo segretario non possa non fare alcune cose, non possa non aprire in modo permanente uno spazio di confronto del tipo di quello che oggi abbiamo evocato, nelle modalità appropriate, non possa non attuare veramente 6-7 punti dello statuto che qualificherebbero il Partito Democratico, e non possa non cambiarne 2-3 che non ci sono ancora. Quindi, come dire, spostando in questo modo la discussione dalla terribile deriva personalistica al io se, io ma che fai, cosa ti impegni a fare. Terzo piano, quello dell'unità territoriale del PD, a cui ho fatto già riferimento prima. Io credo che ci siano, se io faccio lo statistico, se tiro una linea rispetto al numero di unità territoriali che ho visto e quelle che vedrò fino alla fine di ottobre, quando terminerò questa ricognizione, dico che quelle 100 unità territoriali che mi ero inventato nella parte finale del documento dicendo bisogna partire dalle 100, ci sono. 100 unità territoriali che non sono, hanno dei buoni leader, nonostante tanti altri non lo siano, nonostante il loro segretario comunale sia una persona che dice come hanno fatto a nominarlo, però quel segretario di quel circolo è una persona responsabile di quel circolo, una persona che dice porca miseria questo qua eccetera. Allora 100 unità territoriali che si sono già imbarcate, che si stanno imbarcando, che hanno appena finito di imbarcarsi in operazioni di mobilitazione cognitiva o di Giovanni, e che potrebbero beneficiare di essere messe in rete, che tutti sappiano quello che stanno facendo, che sappiano che altri possano contribuire, cioè che siano in rete come nel 2003, ha detto una signora, intervento straordinario in un circolo a Milano, dove c'era, devo dire, una partecipazione forte, anche molto, molto, molto tesa del Partito Democratico di Milano, di età non particolarmente giovane, alcuni bravissimi giovani con un'età, appena vai da Selle ovviamente l'età si abbassa, però anche, devo dire, e poi lo vedrete perché nel blog che facciamo mettiamo il documento che Selle mi ha consentito di pubblicare quel giorno, che è esilarante, perché a differenza del PD sono più capaci di prendersi in giro, perché sono, diciamo, come dire, sono diversi come tipo di taglio, appartengono a un pezzetto della tradizione, diciamo. Ma comunque una signora ha detto ma lo sai perché Amnesty International funziona e PD non funziona? Io ho blaterato una o due cose imprecise, lei ha risposto, se no dice no, io voglio dire perché, vabbè, dico, lo dico, dillo, esattamente. Perché Amnesty International, io entrando dentro al sito, io vengo a sapere tutte le iniziative che vengono fatte in qualunque altro luogo di Amnesty International, che come sapete è più funzionale del PD praticamente, esattamente, e in più io ogni volta che faccio un'iniziativa devo caricarla secondo dei formati che mi vengono detti, raccontando cosa ho fatto e che effetti secondo me ha avuto. Cioè lei sta nel 2013, PD sta nel... però questo non è un problema del PD, questa è un'opportunità, perché vuol dire che con non molto tu gli fai fare il salto, se la signora, che secondo me ha ragione. E la formazione, perché chiedono, c'è una fortissima domanda di formazione, come dicevo prima. E ultimo punto, l'esterno. Prima ho detto l'assedio culturale al PD, nel senso di pressarlo, di tirare fuori documenti, di credere, basta credere che potrebbe essere possibile che cambi. Se lo può. No, basta credere che possa, è possibile che cambi. E questo sì, ma ha bisogno di un contributo anche esterno, ha bisogno di contributo intellettuale, visto che siamo in un luogo dove ne sono stati espressi già molti negli interventi. Per cui, secondo me, quello che gli interventi che avete fatto, le cose che avete detto e quelle che farete, dato che ho visto, allungavo lo sguardo, in alcuni casi erano anche scritte, e non so se deciderete di raccoglierle o meno. Io personalmente, dato che da lunedì prossimo aprirò un blog che è semplicemente un luogo dove possano leggersi le cose che anche grazie a questo giro altre escano, io sarei ben felice di fare un link alla basso dicendo che ci sono 7 interventi, ma lo dico anche ad altri a mettere interventi che ci sono, perché credo che in questo momento ci sia una grossa opportunità.